sessualmente ambiguo, è ambiguo, perché da quello che fa capire gli piace anche un trans. A me il trans proprio non esiste. A Cruciani piacciono i trans? Ma lui l'ha dichiarato, cioè che se dovesse capitare un trans non avrebbe problemi. Quando chiama quella turca, il turco, come si chiama? Efebal. Efebal. Eccoci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Efebal. No, non ho detto gioia. A innescare la guerriglia urbana nel pomeriggio a Roma, una lite fra esponenti di Forza Nuova. Qui nessuno è autorizzato a parlare a nome dei ragazzi d'Italia. E io ti do una collezione di schiaffi se non mi dici la verità. No, fermo. Scene dalla manifestazione contro il governo, organizzata al Circo Massimo da alcune galassie dell'estrema destra, per la prima volta unite a gruppi di tifosi. Mattato la pizza! Da qui l'assalto ai cronisti e cameraman con lanci di bottiglie di vetro e bombe carta. Mattato la pizza! Ciao Cruciani, sei mitico, Cruciani, sei un grande. Io adoro la politica del fascismo perché la trovo corretta al posto di questo benpensanti che peticano bene e lasciano male. Avete perso, dopo 70 anni si parla di Mussolini. Parenzo, scusa Cruciani, suca, Parenzo. See the walls be running dune buggy. Mattato la pizza! Basta che non metta un'altra pizza. Tutta un coglionella. Devo ringraziare due idioti, Cruciani e Parenzo, che hanno tirato fuori che io ho parlato con un alieno, roba di questo genere. Due idioti, perché in effetti ho inventato la storia, sono un poeta. Cala. E come Dante Alighieri ha immaginato di andare all'inferno, al purgatorio e al paradiso, ha scritto la Divina Commedia, ma mica c'è andato. Io sono un romanziere. Certamente. Mi sono inventato di aver incontrato un alieno che però mi ha dato gli spunti per parlare della società umana. Di oggi e di domani, ed è un capolavoro assoluto. Devo ringraziare questi due idioti, Cruciani e Parenzo. Eccolo. Voi siete dei cazzari e mi meraviglio dei miei colleghi commercianti che non tirano fuori i coglioni. Deve finire questo abuso, è un abuso, fa schifo, lo Stato fa schifo, l'unico sistema è la rivoluzione, lo volete capire? Siamo imbrigliati, ci tolgono il diritto di parola, non possiamo parlare, come parliamo ci arrestano, se diciamo qualcosa che non gli va bene ci mettono in galera, è la dittatura. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Beh ragazzi, che Italia abbiamo davanti, che quadro, che voci, il cuore pulsante! Via Monterosa 91, 20149 Milano, eccoci qui, Vivi e Vegeti. In diretta non so da dove, anzi sì, lo so da dove, da Padova! Dove dimora in un villino con giardino, con ascensore, ragazzi miei, con ascensore, un ascensore interno per comodità, dal suo villino, poi daremo tutte le coordinate naturalmente, dal suo villino di Padova David Parenzo, eccolo buonasera, qui. Buonasera cari amici, è già partita, sono tornato intanto in questa città dove non tornavo da mesi causa Covid-19. Incredibile. Per un motivo molto semplice, per salutare i miei sì, genitori. Sì, ma in silenzio lo diciamo, in silenzio. Ora, lo diciamo in silenzio, sono qui a Padova. Che devo dire è una città rinata perché è stata per anni governata dalla Lega. Ma cosa e io l'ho trovata una città col sorriso, nonostante tre mesi. Sì, però la gente gentile che ti sorride, vedi, respiri un'aria diversa in città. Peraltro, devo confessare che non ero da solo, perché ho passato un bel weekend con i miei figli, padovano, ma non ero da solo, ma racconteremo tutto nel corso della diretta. Tu procedi pure con la trasmissione, che io magari ragazzi, ogni tanto darò alcuni dettagli minuziosi. Su chi ho incontrato, darò dettagli minuziosi su chi ho incontrato e chi era con me in città. Potresti aver incontrato questo Franzoni, il solito Franzoni, l'amico Franzoni, il commerciante, il barista Franzoni, che ha completamente sbroccato. L'abbiamo sentito anche la settimana scorsa. È di Carrara, è vero, ha completamente sbroccato. Dice che vuole fare la rivoluzione, nonostante il fatto che lo abbiano incriminato, come sai, per vari reati. Da noi prontamente sentito, naturalmente, il Franzoni, da noi prontamente intervistato. Vogliono far chiudere i locali. Perché fammi capire, ricordami, per intervenire in questa trasmissione come ospiti bisogna essere o delle porno star, o praticare dello squirting, o essere un neonazista. Sì, o aver praticato delle risse, aver incitato all'odio, aver detto che gli zingari vanno bruciati, vediamo se vado errato, fare dei titoli alla Libero, essere direttore di Libero, essere un giornalista della verità, in special modo. È giù discorrendo. Mi pare che sia questo le condizioni per essere ospiti in questa trasmissione, è vero che sono un po' queste le condizioni? Vai. Allora vi voglio dire questo, pare che l'altra sera nel centro di La Spezia dei ragazzini si siano ubriacati e abbiamo fatto casino nel centro delle vie di Spezia. Il risultato di questo casino che hanno fatto questi ragazzini nel centro delle vie di Spezia sarebbe che il comune di La Spezia ha deciso a partire da stasera di chiudere i locali all'1 invece che alle 2, alle 3, ok? Stasera vado là all'1 e non chiudo il locale all'1, sono nel mio locale, li aspetto e registro la presenza di persone nel mio locale, perché ora hanno rotto veramente il cazzo, perché se si sono messi in mente di farci fallire di venerdì sera obbligando a chiudere all'1, gli faccio un culo come un capanno. Non possono continuamente rompere il cazzo ai commercianti! La rivoluzione la facciamo scoppiare stavolta! Ora basta! Pezzi di merda! Siamo a tribolare per pagare i dipendenti! Le bollette! È uno sforzo continuato! Gli faccio un culo così stasera! Mi piazzo io all'1 dentro il locale, poi voglio vedere! Voglio vedere che vengano a chiudermi! Li mando in mondo visione ste teste di cazzo! Voi siete dei cazzari e mi meraviglio dei miei colleghi commercianti che non tirano fuori i coglioni. Deve finire questo abuso, è un abuso, fa schifo, lo Stato fa schifo, l'unico sistema è la rivoluzione, lo volete capire? Siamo imbrigliati, ci tolgono il diritto di parola, non possiamo parlare, come parliamo ci arrestano, se diciamo qualcosa che non gli va bene ci mettono in galera, è la dittatura. Allora, segnalo che quest'uomo, tale Franzoni, è quello che è andato a pisciare sotto Palazzo Chigi. Sostiene che non c'è la libertà di espressione. Mi sembra che quello che proprio non manca in Italia sia la libertà di espressione. Ma soprattutto questa trasmissione, è un esempio lampante. La triste testimonianza. Io dico, tu dici un bel esempio, allora io dico la triste testimonianza. C'è da dire che in qualunque paese civile, se tu ti metti a pisciare davanti, ma non solo a Palazzo Chigi, al luogo delle istituzioni, anche a qualunque angolo della strada, e hai più di 12 anni, quindi non sei più un bambino, vieni comunque segnalato. Cioè, non è che uno gira con un pisello e si mette a fare la pipì per strada. Ma questo non è destra, sinistra, cento, democristiano, socialista, radicale o riformista. Se tu pisci per strada vieni fermato. Convieni con me almeno però, su ragazzi, questo dall'altra o no? Parte, cosa abbiamo? Cosa abbiamo sentito oggi? Cosa abbiamo letto, se vogliamo? Cosa abbiamo letto? Dall'altra parte ci dovrebbe essere questa, tu c'è potresti il 70% una... di nuovi positivi no, in Lombardia. No, lascia perdere questa. Una cosa animalesca. Ancora la Lombardia, cioè, tu, ma non rompere i coglioni con la Lombardia, purtroppo, con lo sto lazzaretto, tutte queste cazzate. Allora, hai sentito l'OMS? Cioè, dall'altra, da una parte ci sono questi che tu puoi considerare gli animali, dall'altra c'è la scienza. Ma dalla parte della scienza cosa c'è? L'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi che giorno è oggi? L'8? L'8 di giugno, che giorno è? 8 giugno. Oggi, dopo non so quanti mesi, boccia l'uso dei guanti. Uno può avere fiducia in questi stronzi? Perché sono degli stronzi. Boccia l'uso dei guanti, può aumentare il rischio di infezione, meglio ma disinfettare si sapeva, le mani. Non mai usati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi ci comunica che può aumentare il rischio di infezione, meglio disinfettare le mani. Adesso, amici miei, non ci rompete. Questa qua, ma vanno chiusi, non va dato. Ha ragione Trump, non ma bisogna più chiudere? Dare un euro a questi signori dell'OMS. Va chiusa questa roba qui. Questa, non dico fogna perché non lo voglio dire. Non dico questo letamaio perché non lo voglio dire. Questa organizzazione nefasta, questa organizzazione assurda. Fuori dal testo. Non lo voglio dire. Questa qua vanno chiusi. Fuori dal tempo. Vanno ma chiusi. Va chiusa. Delle chiudiamo ma tutto, vanno licenziamo, i vertici, mandiamoli via. Ma il meccanismo è corretto. Ma non ci possono dire dopo tre mesi che voi boccia l'uso dei guanti. Boccia l'uso dei guanti. Ma questo adesso non ti faccio sentire veramente. No, ti faccio sentire un'altra cosa. Sentire un medico tu sai della che, mutua. Sai che Burioni dice che non vuole andare più in televisione, no? Che l'Italia è un io paese. Io sono molto amico di Burioni. Ma io pure, sono veramente. Io pure. Però dopodiché, pensa che bel amico che ha. Ma non mi interessa, io critico quello che dice. Cosa vuol dire mi rifiuto, non vado più in televisione, non parlo più? Cosa vuol dire? Perché adesso perché non c'è più niente da dire. Ma chi gli ha rotto le scatole? Ma uno scienziato non deve stare sui social, deve stare dentro i laboratori. Lui ha fatto un'opera meritoria sui social. Ma che c'è dalla. Ma come? Ma che stai ma scherzando? Cosa vuol dire che la battaglia che lui ha fatto contro gli anti-vax è fondamentale. Perché dice non parlo lui più? Lui ha fatto una battaglia perché gli hanno rotto non parlo più. Gli hanno rotto le balle. Ma chi? Ma chi? Come? Perché? Ma di che parli? Ha incassato giustamente un sacco di soldi. Chi gli ha rotto i coglioni? Ma non quello mi pare è un esperto. Che esca intanto. Sconfitto tu da questa incassi roba qua. Perché sei un esperto di comunicazione. Hai incassato un sacco di soldi da un'azienda di cui poi diremo il nome, che è una grossa azienda che ti ha voluto pagare per delle consulenze. Tu incassi perché ti considerano uno esperto di comunicazione. Hai incassato un grande assegno. Vuoi che diciamo il nome? No, di nome, non c'è nessun nome. Rivela cosa ti diceva tuo padre in culla. Un'altra cosa che ho appreso in questo weekend. Che cosa diceva quando eri in culla? No, tutti lo devono sapere. Parenzo in culla con il braccio, con il pugno sinistro. Ma perché tutti i bambini tengono il pugno chiuso? Tuo padre cosa ti cantava? Tutti i bambini tengono il pugno chiuso. Che cosa ti cantava tuo padre? Il tuo augusto padre? Quale canzoncina? Intanto per chiarire la situazione, come faceva la canzoncina? Come viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong, e viva il glorioso Partito Comunista di Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer. Basta tutto qua. Mamma mi sembra, cioè, ma Parenzo in culla, questo sono venuto ad apprendere. Il padre inculcava nella testa del ragazzino una canzone comunista, altro che comunista. Non era come all'inizio, Viva Mao. Ma per ridere, diceva. Viva Mao, com'era Viva Mao? Viva Mao. No, in ordine, Viva Marx, e Viva Lenin, Viva Mao Zedong, Viva Marx. In ordine andavano detti. Comunista Viva Marx, sin Viva dall'inizio, Viva Mao, sin dalla culla, comunista sin dalla culla. No, ti voglio correggere, io comunista non lo sono mai. Con l'ascensore in casa, vergogna. Per forza, vergogna, vergogna, anziani, con mani di. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Sì, io vedo molto negativo. Io sono storico amico di Parenzo, perché la testa di cazzo così è un comunista, un fascista, ce l'ha su con Salvini. Tu sei un cretino imbecille. Ciao, sono Federico da Lucca e non sono solo. È tornata Erika, la mia prostituta preferita. I love my radio. Ne parleremo stasera. Caro Davide, ti voglio sottoporre questa notizia. Bologna colpisce la moglie con un pugno e grida: sei una comunista, viva il duce. L'uomo è stato arrestato. Altri due episodi di violenze domestiche in città e provincia. A Pieve di Cento, un uomo di 39 anni. Puoi invitarla in trasmissione? Puoi invitare in trasmissione questa persona e puoi dire: vabbè, dopo averla, va bene, grazie, altra chiamata. E dici anche grazie. No, penso che questo sia stato arrestato. Questo è quello che fai. Penso sia stato arrestato. Penso anch'io. Ma qualora non fosse stato ancora arrestato, saresti capace di chiamarlo? Beh, e alla certo. fine della cosa, ma magari dire, avessi sì, il no, ma questo poco male, ma magari avessi ma il numero, d'accordo, ma la cosa grave sarebbe che alla fine della cosa saresti in grado di dire: va bene, grazie, alla prossima telefonata. Come grazie? E che quello devo ucciso dire? Marte, ma ha tentato di uccidere, no, Martè, grazie. Non ha ucciso, ma attentato, ma certo, la un criminale, dice, ma va bene, criminale. Grazie, va bene, grazie. Tu vabbè, sei grado di avere Pacciani? Dice: allora Pacciani è accusato di pluri omicidi, allora ma lei come si prende? Va bene, grazie Pacciani. Franco da Roma, ma come grazie Franco da Roma? Ma che devo dire? Ma come ti permetti? Ma cosa devo dire? Ma sei un criminale, ma come ti permetti? Allora grazie Pacciani, grazie per essere stato con noi. È con noi Pacciani, il mostro di Firenze. Buonasera mostro, come sta? Ma come buonasera mostro, come sta? Ma non è un mostro. Sì, però ragazzi, dall'altra non lo puoi parte trattare così. Sì, ma dall'altra parte non ci sono i geni. Buonasera, allora io dico... è con noi Jack lo squartatore. Buonasera Jack. Allora, come stai? Come stai? Jack lo squartatore, quello cazzo. Però scusami, dall'altra parte non ci sono dei geni. Ancora una volta oggi. Buonasera, è con noi Totò Riina. Buonasera Totò. Allora, quanti delitti ha commesso? Quanti giudici ha massacrato oggi? Ah, vabbè, però non si fa così. Ma lo dica, lo dica. Va bene, grazie Totò Riina. Altra chiamata, Antonio da Roma. Ma com'è Antonio da Roma? Tu fai così. La gente, Confindustria lo deve sapere. Forse sanno, non ha, la tua sanno. Fortuna è che non ascoltano questa trasmissione. La nostra fortuna, perché effettivamente al 27 del mese si viene tutti quanti pagati sempre con una precisione straordinaria. Beh, si vede anche quasi. Si vede anche dall'ascensore che hai in casa. Ma questo cosa c'è? Dall'ascensore. Miei, perché già non mal di schiena. Incredibile, ragazzi. L'ascensore. Ma io sono abito a Roma. Comunque, ragazzi, comunque, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Allora. Dall'altra parte ci dovrebbero essere quelli bravi, cioè quelli che sanno, gli scienziati. Beh, oltre, così, allora, così, il virologo Pregliasco, il virologo Pregliasco, amico mio, ti abbraccio perché ogni tanto ti incontro, eccetera. Poveri, però non si quello posso, anche ti saluta pure in trasmissione. Ma non si quello, possono poverino, dire queste cose. Tra però, le tante cose no, che fa, è costretto pure a vedere te e Giordano in trasmissione. Pensa no, a ma come senti, ridotto, senti Pregliasco, barba e baffi. Sì, si possono tenere, ma lavati e coperti da mascherina. No ai modelli hipster, cioè non ci vogliono i modelli hipster, sono controproducenti in questo periodo di Covid, eccetera. Ma lo sai dove lo dice questo? Ah. No, ma lo sai hipster, cioè con i barboni, eccetera. Ma sai dove sì, lo sì, dice? Sì, no, capito. Ma sai dove lo dice Pregliasco? Lo sai dove lo dice Pregliasco, amico mio? Da dimenticare i modelli alla Garibaldi o alla hipster se non si ha voglia di dedicare al viso molta cura ogni giorno. L'igiene deve essere sistematica. L'igiene deve essere sistematica sia per la barba che per i baffi. Lo sai dove lo dice? Ha una cosa organizzata, lo sai da chi? Ma non lo voglio dire perché sennò sembra che... Beh, sì, da Gillette. Ha una cosa organizzata da Gillette. Da, no, da Gillette. Da Gillette. Da Gillette. Da Gillette, no Gillette. Gillette, Gillette. I rasoi, amico mio, i rasoi. Ma che te l'ha fatto i rasoi? No, i rasoi non che mi hanno fatto regalato? Niente. A me non mi hanno regalato tu nulla. Saresti un... Saresti, no. Infatti si vede, saresti un pessimo testimonio. No, ma si so, vede che non ti hanno regalato. Ma uno, scusa, ma che credibilità uno può avere dicendo che i modelli hipster non vanno bene, dunque bisogna tagliarsi un po' di barba a un convegno organizzato dalla Gillette? Un virologo che va bene, può farsi invitare da chi vuole, può dire la sua, ma non dire che non ci vuole il modello hipster, che non ci vuole la barba lunga. Ha una cosa organizzata dalla Gillette che suona male, no? Suona male o non suona male anche a te? Come ti suona cioè, questa cosa dici, qui? Tu dici sarebbe come andare a casa di una delle vittime del Pacciani e dire che poi in fondo non era così male, in fondo tu dici il mostro di Firenze. Però vabbè, capisco la no, tua obiezione. No, ma che c'entra? Insomma, cioè, non è la stessa cosa, ma sei impazzito? No, perché cioè, sono i tuoi paragoni, sono i tuoi paragoni, vabbè, i tuoi allora, paradossi. Allora, ormai senti, Capezzone ma no, contro ma che... Mughini, senti. Allora, uno va a un convegno, no, uno, de- un convegno della uno, Gillette, uno scienziato, e dice che uno. Bisogna tagliarsi la barba, che bisogna stare attenti. Sì, effettivamente dai, è un po' su, strano. Capezzone però... Mughini, dai. adesso ho l'impressione che l'ordine delle priorità sia cambiato. Prima pensiamo alle cose fighette di lusso e poi invece pensiamo a quelli che devono prendere l'autobus, la metropolitana, eccetera, che forse, scusate, si incazzano un po', secondo me. No, ma è un racconto, però. No, voglio sentire la tua. Ne parleremo la prossima. No, dici, ma il monopattino è ZTL. Tenendo presente che a me di sinistra, destra, centro non me ne può fregare di meno. I risultati elettorali non vogliono dire nulla, perché potrebbe darsi nulla. Gli che quelli dei parioli leggano i giornali e ne sappiano un po', sai, può anche essere questo. Può anche essere questo. Ah, quindi quelli che votano in un modo perché sono giornali indipendenti sono tutti, o sono tutti o nessuno. Non è che il tuo è indipendente e gli altri sono dipendenti. Tutti i giornali sono indipendenti. Ho detto che quelli dei parioli sono intelligenti perché hanno votato un partito civile. E gli altri sono incivili. Per carità, non ho detto questo. Certo, chi non legge mai un giornale non è tanto civile. Ma sono cretini, gli diamo le pagelle. Arrivate voi e gli fate l'esamino per votare. Assolutamente no. Bella democrazia. Ma guarda che io non pontifico affatto, a differenza di te che pontifichi dalla mattina alla sera. Io me ne strafotto di tutto e di numeri. Penso solo alle mie responsabilità. Quando pago le tasse, solo a quello penso. Sono felice quando pago le tasse, sino all'ultima lira nel giorno preciso. Questa gli altri invece non le pagano. Ho sentito da Mughini chi non legge neanche un giornale è un incivile. Ma di che parliamo? È impazzito? Beh, cioè, chi impazzito non si forma, diciamo. Ma non è vero, non è così, una follia una cosa. Chi non legge nessun giornale è un incivile. Chi non si forma, chi non si forma, intendeva dire, no, i giornali. Ma perché ha asfaltato il tuo amichetto Capezzone? Ma quando mai? Lo ha asfaltato, ma quando mai? Anzi, Capezzone ha tirato fuori l'animo snob di Giampiero. L'animo snob. Chi non legge un giornale è un incivile. Chi non legge un giornale è un civile. Lì hanno votato bene, lì hanno votato bene perché sono acculturati, no? Lì hanno votato bene, dai. Fabiano, dimmi. Pronto? Dimmi, Fabiano, dimmi. Sì, aspetta, ti levi il costo, pronto? Dai, forza, dimmi. Ti volevo dire, quelli dell'OMS sono un branco di dementi. No, ma guarda, non lo scopriamo adesso, amico mio. Ci hanno informato oggi che i guanti sono producenti, controproducenti, sì, secondo loro. Montanari è tanto lo dice di sta fa scienziato Montanari, è un mese o due, dice guanti. Vabbè, non so quello che dice Montanari, dirà anche questo, non mi interessa. La questione non è Montanari o non Montanari, non è che ci sono guru da una parte e cretini dall'altra. Dico semplicemente che l'OMS che ci viene a raccontare oggi che i guanti sono controproducenti, si dovrebbero andare a nascondere. Si dovrebbe chiudere bottega e non romperci più, non dovremmo dare più un euro a questo branco di dementi, chiaro? Questo è il punto fondamentale. Ok, ciao. Ciao, fermi tutti. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. La Zanzara. Ho visto poliziacci di nero. Questo è razzismo! Questo è razzismo! Ciao Cruciani, mi hanno confermato adesso che Algero sarà l'autista ufficiale del matrimonio di Parenzo, sarà lui che condurrà la sposa alla cerimonia e gli sposi successivamente al banchetto per poi portarli in giro per l'Italia in viaggio di nozze. Cosa? Volevo dire soltanto questo, dal momento che la vostra emittente per la maggior parte è ascoltata da professionisti. Ma chi l'ha detto? Esatto. Chi l'ha detto? Scusa, sì, dici tu. Comunque esatto, dimmi, dai. Esatto. Vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate. Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo, tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera. No, escono fuori, scoreggiano, ruttano, scopano, bestemmiano e fanno altre cose. Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi. Ma ti devi vergognare tu, e le persone. Io tanto non gli ho dato del tu, lo sto dando del lei. Comunque lei, ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai, io ti do del tu. Un linguaggio così scurrile. E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Tutte le parolacce che dite potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo. E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice. Cioè spegni la radio, non ci rompi i coglioni. Io ti abbraccio. Lo vedi. Tuo figlio della mignotta. Ma scusa, non bisogna dire le parole. Richiamo. Italia spoco. Guarda. L'Italia è sporca. Sì. Sì. Comunque ragazzi, c'è da riabilitare Gottardo, eh. C'è da riabilitare la tesi gottardiana, le tesi gottardiane. La dico tutta, caro Parenzo, la dico anche grossa se vuoi. Ma ci sarebbe guarda, da riabilitare, magari riabiliteranno anche il generale Pappalardo probabilmente. Ci sarebbe da riabilitare futuro, le tesi gottardiane dell'inizio di questa vicenda. Oggi, per esempio, un virologo, non che io abbia eccessiva fiducia in un virologo, però in questo caso cita uno studio, si chiama Silvestri. Dice il virus è comparso, aspetta, il virus è comparso tra il 6 ottobre e l'11 dicembre del 2019. Sì, sbagliati i dati sull'epidemia. I modelli matematici hanno fallito. I modelli matematici hanno questo può essere, ma i morti aspetta, a Bergamo e a Milano fallito. Ci sono stati. Oggi è il fatidico 8 giugno. Quello che, se non stavamo attenti, avremmo avuto 151.000 malati in terapia intensiva. Invece sono 286. Perché e dopo c'è 30... stato lockdown. No, quello lo diceva anche dopo lockdown. E dopo 34 e 20 giorni dalle aperture di maggio, non c'è alcun segno di quel ritorno della pandemia che certi esperti davano per scontato. Quest'ultimo punto è importante. Beh no, non ci sono segni. Quest'ultimo punto è importante. Ma deve essere ricordato. E totale. Deve essere ricordato con chiarezza. Con chiarezza. Poi parla di altre cose complesse, anche dei paesi che hanno fatto meno lockdown di tutti o che hanno fatto meno lockdown di noi, che non hanno numeri così scandalosi, così scandalosi, sempre secondo Silvestri. Discorso perché lungo, contenuto discorso focolai, lungo, ma sarebbe da riabilitare qualche tesi gottardiana, ti dico solo ma questo. Poi anche qualche tesi ma guarda che puoi riabilitare anche Himmler, Kapler e anche stai alcune tesi probabilmente. Stai paragonando Gottardo no, a Himmler e a Kapler. Ho detto che se tu volessi potresti riabilitare qualunque cosa. Qui il tema è il generale Pappalardo dice delle cose giuste, ma probabilmente quando va a dormire di un'altra cosa, dice cosa c'è? No, perché le tesi di Pappalardo sono le stesse di quelle che sono state portate qui in questa radio all'inizio della pandemia. No, Pappalardo lo abbiamo sentito. Pappalardo abbiamo... è una persona rispettuale che non c'è problema a essere stai d'accordo paragonando con Pappalardo. Pappalardo a Gottardo. No, Pappalardo ho detto semplicemente a un'altra comunque cosa. Ragazzi, Pappalardo ha espresso delle tesi. Io ho capito Io ho capito una cosa nel fine settimana, che gli assembramenti vanno bene in alcuni casi, quando si deve manifestare contro il razzismo, quando si deve manifestare contro non so che cosa, per le sardine e altre cose. Non vanno bene quando si tratta di Salvini, Meloni e altre hanno cose. Manifestato ancora. In quel lockdown. Caso giù lezioni di morale, di regole, di rispetto delle norme, eccetera, eccetera. Nell'altro caso, quando si deve manifestare contro il razzismo, eccetera. Poi la gente che in Italia manifesta su una situazione in America che è complessa, che ha a che fare con la polizia, che va avanti complessa, da tanti non anni. È tanto complessa. Sì, ma che cosa manifesti in Italia? Miccia, ma cosa cazzo miccia. Manifesti? No, ma perché non ti mobiliti? Ma poi ognuno fa quello che vuole, ripeto, ognuno si può mobilitare pure per il Burkina Faso, va benissimo, come facevano i radicali che si mobilitavano, ti ricordi, per gli Uiguri, una come cosa no? Di no, ma va benissimo, infatti si sono infatti sono scomparsi. Infatti sono scomparsi. Ma perché non ci sono più i radicali che accendono, ma va che ci sono, ma sono pochi, ma Bonino, cosa manifesti per George Floyd? Che accendono ma che cosa manifesti in Italia? Ma quando per si manifestava Floyd, per Martin Luther King? Scusa, ma falla ma finita con Martin Luther King, che siamo in un tu altro tu cosa avresti in fatto in quegli mondo, anni? Dai, tu, che cosa, tu saresti stato dalla parte dei bianchi, persone, probabilmente. Ma tante tu persone in quegli anni saresti stato dalla parte cosa, dei bianchi? No, ma figuriamoci, tu? Figuriamoci. Ale, sì, figuriamoci. Perché avresti detto, ma perché devo manifestare? Io ho la mia villa, sto tranquillo. Perché devo manifestare? Valgono tutte allo stesso modo. Per cui non diciamo puttanate, le vite valgono tutte allo stesso modo. Non è che la vita di uno vale meno di una vita dell'altro. Basta questa, non ci rompete i coglioni. Le manifestazioni in Italia, a che cazzo servono le manifestazioni in Italia, porca puttana? Servono come per far fammi vedere sentire che Porro c'è su un'altra... Casa Pound. Porro su Casa Pound. Porro difende Casa Pound, eh? Porro difende Casa Pound. L'ultima vicenda è questa roba di Casa Pound, che secondo me è incredibile che di 77 case occupate dai centri sociali l'unica che venga sgomberata e ci sia un PM che ci sta indagando e vorrebbe mettere tutti in galera, ovviamente quella di destra. Su Casa Pound, difendere Casa Pound vuol dire essere fascisti e non essere liberali come sono io, e io difenderò Casa Pound finché crepo, perché penso che abbiano diritto di dire tutto quello che vogliono. Non mi sembrano un movimento violento, lo dico, non mi sembra un movimento violento, io sono stato là dentro, non mi sembra violento. Amico mio, il problema è solo uno è a favore o contro le occupazioni? Cioè, questo è il punto. Occupare un edificio pubblico. Primo elemento. E occupare dovrebbe essere. Secondo, alcuni di loro sono sottoposti ad indagini. Vabbè, che ma quello dire? È un altro discorso. Il se il governo vuole sciogliere Casa Pound per reati, lo sciogliessero. Se esiste un movimento legittimo, che questi possono manifestare e dire quello che vogliono. Ma il problema non è quello che dicono questi. Questi sono liberi di dire quello che vogliono. Questo ci mancherebbe, certo. Per adesso sono liberi di dire quello che vogliono. Basta che non incitano all'odio. Ma sì, basta, ma quello è un altro discorso. Certo, ecco, non c'è dubbio. Allora, un immobile pubblico è occupato? Risposta: sì. Va sgomberato, a mio parere sì, però in contemporanea se fosse suo quello stabile, visto che Porro è pieno di appartamenti e di stabili. Vabbè, se fosse suo non direbbe così. No, voglio dire, siccome sì, è una persona è un ottimo benestante, non gliene se ne fa una colpa. Occupati se occupassero uno dei suoi immobili, visto che è un ottimo benestante, noi gli vogliamo bene anche per questo, non direbbe queste cose probabilmente. Vai, Giulia, dimmi. Giulia da Bergamo, vai Giulia. Ciao a tutti. Dimmi Giulia. Ho chiamato perché settimana scorsa ho sentito parlare dell'esperta di squirting. Molto bene, sì, la signora Gigliotti ha riscosso grande successo. Volevo sì. dirle che io le traversine le uso solo per il cane. Le usi solo per il cane? Sì, perché quando squirto non si ha il mirino, è così bello farlo liberamente. Sì, ho capito Giulia, quindi... però posso dirti una cosa, le traversine sono anche molto... Cioè, possono essere larghe, possono essere. Possono occupare l'intero letto, se vuoi, o l'intero pavimento. Sì, ma no, comunque, tu non le usi. Squirtare liberamente, no, ci mancherebbe. Cioè, tu dici è meglio squirtare liberamente e anche bagnare quello che c'è intorno, evidentemente, senza bisogno di coprire quello che uno fa, giusto? Esatto, sì, ma perché appunto nel momento non è così bello mettere sotto delle traversine. Sì, guarda, che posso essere d'accordo con te, cara Giulia, perché evidentemente la preparazione di mettere queste cose qui è talmente, come dire, no, ci vuole anche del... bisogna pensarci. Ci vuole naturalezza, ci vuole spontaneità, delle traversine Sì, traversine sono squallide, roba da pornostar, roba da film porno. Esatto. Cioè, scusa, cara Giulia, quante volte ti avviene questo squirtamento, questa eiaculazione così copiosa? Cioè, una cosa frequente con più persone? Sì, abbastanza frequente, sì. Quando l'hai scoperta? Col mio attuale fidanzato, perché solo lui finora adesso c'è riuscito a farmi squirtare. Ah, molto bene, cioè dire, solamente col tuo attuale fidanzato sei riuscito a squirtare, dunque è una cosa recente questa roba qua. No, vabbè, siamo insieme da 5-6 anni. Ah, da 5-6 anni, dunque voglia. Però scusi signora, adesso se glielo chiedo, lei ha deciso di intervenire in questa trasmissione all'inizio di questa settimana, nel giorno in cui Colao ha presentato i suoi 6 obiettivi per un'Italia più forte, resiliente. Ma è molto più interessante capire che Giulia non ama le traversine, non ama la copertina sotto di plastica. Ma come mai lei interviene su un tema così laterale rispetto a un tema invece importante per il paese? Quali i 6 obiettivi di Colao? I 6 obiettivi. Serve per divertirsi, non per sentire parlare di rotture di cazzo di Colao, amico mio, dai, su, scusami Giulia, voglio capire una cosa, ma ogni volta che tu fai sesso con il tuo compagno, col tuo fidanzato, squirti, cioè ormai è una cosa regolare oppure ci vuole dell'impegno eccetera eccetera, cioè ci vuole, dipende dai casi, ecco. Dipende dalle volte, ma la maggior parte delle volte, 80%, l'80% vai dritta, sì. l'80% sì. ci riesci. Che ti devo dire? Sei invidioso, Parenzo, di questa cosa di Giulia, tu? No, sei invidioso. Io dico solo questo, sono le 19:27. Se già adesso inizi a introdurre argomenti di questo tipo, che cosa succederà? È un'ascoltatrice che ha chiamato, amico mio, cosa ti devo dire? È un'ascoltatrice. Fammela dire tutta, è una poveretta, non è un'ascoltatrice, perché è una che decide di telefonare alla radio per parlare della sua intimità. Col fidanzato, ma è fondamentale, una poveretta, lo dico con rispetto, ma è per fare due risate. No, ma non solo questo, ma anche per una questione di liberazione, una questione culturale. Cioè, Giulia ci sta raccontando che è normale. Il nuovo femminismo è libertà di squirting. Capire che non è una roba anormale. Ma nessuno lo sta impedendo. Quando si diceva il femminismo degli anni 60-70, c'era qualcuno che lo può vedere. Prima, il movimento delle suffragette del 1946, c'era qualcuno che impediva alle donne di votare. Qui nessuno impedisce alle donne di squirtare, nessuno! È una differenza fondamentale. Qui nessuno impedisce. Però c'è qualcuno a che ti vede come una zozzona, tu la vedi come una zozzona. Ma non me ne frega. Ma lo vedi perché lo dice alla radio? No, e allora lo dice, e qual è il problema? La differenza tra pubblico e privato? Sua, a me non mi farebbe nessun effetto se a casa sua lei vuole. Ma se lo vuol fare anche ogni 10 minuti con le traversine, senza le traversine. non mi getto corto, non mi interessa. Ma il discorso deve essere, ma deve essere portato in pubblico questo non discorso. È una suffragetta, una squirtiretta, diremmo oggi. Diremmo questo è il nuovo termine che si può usare. C'erano le suffragette nel 1946. Scusi Giulia, a lei piace il sesso anale? Andiamo fino in fondo a questa cosa. A lei piace il sesso anale o no? Vogliamo liberarci anche da questa provato, cosa? Ho provato, ma no. Non ama molto. Sinceramente no, preferisco. Ma certo, questa voce. Perché preferisce? Perché di no, godo di più sinceramente. Cosa? Beh, no. Cioè col sesso bene, normale, diciamo, con la vagina. La penetrazione non analmente. Evviva. Fermi tutti, grazie viva. Giulia, grazie. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. È normale. Parezo, tô aqui no Brasil escutando La Zanzara. Beijo e fica com Deus. Salvini che condivide gli interventi da del debbio di Cruciani. Cruciani, sei una puttanella. Dopo le manifestazioni che ho visto a Milano, Roma, sai che cosa? Ho deciso di devolvere tutto il mio tax return di quest'anno qui al Port Orange Police Department, amico mio. Eh sì, perché quelli lì a Milano e Roma, ma chi vi si incula? Chi vi si incula qui dall'America? Ce ne fottiamo del vostro cazzo di Black Lives Matter, All Lives Matter, porca miseria! Manuela, sono Cettina, Cettina Spassabaron. Poi l'altra cosa che mi fa impazzire è un'altra, cioè molte manifestazioni, non tutte, naturalmente, alcune manifestazioni dei cosiddetti antifa, cioè quelli che dovrebbero essere no, pacifisti, eccetera, eccetera, si trasformano in episodi di violenza contro la polizia. Hanno imbrattato le statue di Churchill. Questo male. Che è un male, gigante, male. Gli hanno detto era razzista. Ma quelli non sono antifascisti. Ma chi è razzista, Churchill? Ragazzi, questo è successo. Non sono antifascisti. Questo è successo. Ma non è successo non questo. Lo dici, quelli che hanno imbrattato la statua le statue di sono dei teppisti. Churchill era uno dei più grandi. Tanto liberato dal nazifascismo. Uno dei più grandi statisti. Hanno abbattuto delle statue di presunti schiavisti, non so dove. Ragazzi, ma episodi di violenza che se fossero accaduti diciamo dall'altra parte ci sarebbe stata l'ira di Dio. Ma quelli sono teppisti, ma non devi generalizzare un movimento mondiale di solidarietà a quello che è accaduto negli Stati Uniti. Ma che scherzi, mettere sullo stesso piano vogliono togliere i fondi alla polizia, l'altra follia di togliere i fondi alla polizia in America, togliere i fondi alla polizia. Beh, è una proposta che viene dai democratici americani, sbagliatissimo togliere i fondi alla polizia. Ma di che parliamo, dai, su, ma non mi interessa poi di queste cose qua, non entro dentro. In generale, togliere, che vuol dire? Perché succede un episodio o tanti episodi? È una proposta del Partito Democratico. Ma per carità, ma chi se ne frega? Americano, Partito Democratico. Gennaro da Caserta, dai, Gennaro da Caserta, incredibile, vai, Gennaro, dimmi. Ciao Giuseppe. Buonasera, dimmi. Pure a parecchio. Dai, dimmi, veloce. No, volevo dire una cosa in riferimento a quello che hai detto tu dell'OMS, no? No, ma è pazzesca questa cosa qua. Questa cosa qua di oggi è incredibile, amico. È incredibile. Ma qui hanno sbagliato tutti quanti, se tu ci fai caso. No, ma è incredibile che oggi questi signori... Il tuo fratello Sgarbi, no? Tante cazzate. Sì, ma però, amico mio, togli viva voce l'auricolare, ti prego. Non c'è nessuno viva voce, sto parlando col telefono all'orecchio. Vabbè, allora Sgarbi che fa? Ma Sgarbi ha detto tutti i colori, ma Sgarbi è Sgarbi però. Ho capito, però perché quanti virologi, quanti scienziati, pure ma non capo, è un virologo no, però non è un virologo, ma la capo ha detto l'altro giorno che non va in laboratorio dal 2012, l'ha detto l'altro giorno in un'intervista, oggi l'ha detto. Gennaro, ciao. Fatemi sentire questa cosa della capo, vi prego. Ha detto che non vede un laboratorio, non per colpa sua, probabilmente per quello che le è successo, dal 2012. Dal 2012, amico mio. C'entra? Ma lei ha studiato i virus, che c'entra? Ma è vero che lei da oggi ha chiesto di essere definita ex virologa? Cosa vuol allora, dire? Ha preso le distanze? Che dunque, no, allora, non raccolgo la polemica della preso le distanze, però riflettendo in questi giorni su, appunto sul mio nuovo libro, ho pensato, ma io non sono più una virologa, perché io non ho un laboratorio dal 2012. Ma non è che non ha studiato, però. Chi ha detto che non ha studiato? Non è che non ha studiato, Alessandro, non è che quindi Damiano, non ha le competenze, dai, per parlare. Chi l'ha detto questo? Si ingenera un meccanismo, si ingenera in chi ascolta ed allora Alessandro non sa niente. Chiama il camionista di turno che dice, ma allora non sa niente. Alessandro, quella chiama dimmi, l'imbecille Alessandro di turno. Pronto? Sì, dimmi, Alessandro, dimmi. Buonasera, intanto. Dimmi, no, vai, volevo vai intervenire a proposito dell'audio che avete mandato prima di quel, di quell'imprenditore disperato che parlava, e giustamente avete sottolineato del fatto che sia andato a pisciare sotto Montecitorio, al di là di questo. Beh, imprenditore, ovviamente, intanto non lo chiamerei commerciante. Dai, Alessandro, allora. Esatto, commerciante, imprenditore. Ma neanche, cosa, commercianti, perché sono persone serissime, i commercianti, mica sono rappresentati da quel matto. Io conosco solo commercianti. Comunque imparare, voglio dire, che sia un commerciante, un imprenditore, comunque una persona disperata. Quello però mi sembra disperato, è pieno di persone disperate, ma che agiscono nella legalità e non fanno puttanate come quello lì. Quindi guardi, persone comunque disperate, serie, ne conosco tante. Indubbiamente andare a pisciare, che sia sotto Montecitorio, esatto, o sotto le case. No, però è diverso, quello non ha pisciato per necessità, quello ha pisciato perché era davanti a Palazzo Chigi, a Targa a Palazzo Chigi, per sfregiare, diciamo, il Presidente del Consiglio, ha pisciato, esatto, lì, poi. Esatto, come gesto, diciamo, va bene. Ma guarda, io mi sarei indignato anche bene, se l'avessero fatto nei confronti di Salvini e Meloni. Vabbè, allora cosa vuoi dire? Non ho capito, cosa vuoi dire? Infatti stavo intervenendo per questo. Dimmi. Perché volevo indicare a Parenzo, visto che lui ha detto che se tu tiri fuori il pisello e ti metti a pisciare, giustamente vieni vabbè, denunciato, dunque, che cosa. Allora, io, guarda, ho avuto modo di confrontarmi col sindaco Sala, abito appunto a Milano, corso Buenos Aires. Dunque? Durante... E dunque lui l'ho invitato a vedere la situazione della zona qui, ed è pieno di persone, poverini, senza casa, che però non credo sia dignitoso, e vorrei invitare anche Parenzo a vedere come si comportano tutti i giorni. Ma chi? Pisciate, non ho capito. E allora? E allora? Vabbè, che cosa vuol dire questo? Certo, allora, come Parenzo sostiene che giustamente diciamo non è corretto, vorrei invitarlo a vedere come siamo in questa situazione. Vabbè, in Milano. Non ho capito un cazzo. Massimo da Roma, dai, Massimo da Roma, dai, forza, Massimo, dimmi. David. Dimmi. Minoranza silenziosa, amico David, buonasera. Maggioranza, allora, io penso che andare a una manifestazione organizzata da Pappalardo è come andare a una conferenza indetta da Cruciani sulla pulizia e sull'igiene personale. Penso che sia il nulla assoluto. A parte che, Giuseppe, ho visto l'altra sera da Terdebbio. L'altra ma fare via reclame di bagno schiuma quasi, ma che cazzo avete fatto a Milano? Quattro giorni fa, amico mio. Ma fare via reclame di sciampi quasi. Che vuol dire la reclama degli sciampi? Parla chiaro, Massimo. Ma che dai, vuol dire? Giuseppe, porca miseria, hai fatto un crollo pazzesco col coronavirus. In che mannaggia senso? La miseria. In che senso un crollo? Spiegami. Ma già a barba lunga. Barba lunga, ho fatto crescere la barba. Allora che cazzo vuoi, scusa? Cioè no, devo piacere a te. 53, ma non devi piacere a me. Ma dai, devo piacere a te, non ho capito. Al paraculo. Devo piacere a te, non ho capito. Io capisco che hai creato sto caporalato del miserabile che ogni sera devi far capire che il brasiliano. Il caporalato del miserabile sì, è una grande definizione. Lo il so, caporalato grande, del miserabile. Grande. Ma sì, bravo, David, al di là di queste cazzate, cosa vuoi David, dire? David, questo t'ha fatto capire, ti mette in testa che il brasiliano Spadalino e quell'altri che chiamano hanno la stessa valenza con Umberto Galimberti, capito? Esatto, sicuramente hanno Palermitano... sicuramente valgono come te, guarda Massimo, no, questo guarda, non c'è allora questo è sicuro al 100%, non te fai ingrifare dal microfono, questo è sicuro al 100%, non ti preoccupare, non te fai ingrifare dal microfono, a me mi ingrifano altre cose, non ti preoccupare, tu hai la possibilità con me, David, di imparare qualche cosa, perché a livello di analisi siamo superiori. Massimo, tu non mi puoi insegnare uno stramaledetto cazzo di nulla, capito? Può darsi, ma non lo so di che cosa. Non so adesso ti dico una cosa sugli assistenti civici. Dimmi una cosa sugli assistenti civici. È come dite che il cannone sono a mezzogiorno, è oggettivo. Dimmi, è oggettivo. Perché la gente si è incazzata. Allora, se io parcheggio la macchina sullo scivolo del portatore di handicap, che sia Giuseppe o che sia un carabiniere a rimproverarmi, io sono in torto. Ma cosa c'entra questo? La gravità di un reato non si misura dal monito di cui chi lo riceve. Ma cosa c'entra? Ma non c'entra una sega. Ma allora perché hanno ritirato questa proposta? Ma perché hanno ritirato questa proposta, cretino? Perché l'hanno ritirata? Te lo spiego. Perché non sei la svizzera della Germania che hanno un'integrità morale superiore. Sì, vabbè. È arrivato quello che c'ha l'integrità. Anche tu hai l'integrità. Hai l'integrità, hai l'integrità morale inferiore tu allora. Pensi di avere l'integrità morale inferiore rispetto a un tedesco? Rispetto a un tedesco pensi di avere l'integrità morale inferiore se sei nella media italiana, giusto? No, però scusami, anche tu hai detto che al nord sono più civili. Attenzione, qui abbiamo un signore. Ma anche tu, Cruciani, dici che al nord sono più civili che al sud, scusami. L'hai sempre detto. Del microfono, ma non c'è l'ingrifamento, non te lo qua. L'ingrifamento ce l'ho ogni giorno, purtroppo è quello che non hai tu. Allora, Massimo, posso dirti una cosa? Tu appartieni dunque alla classe superiore di persone, che pensa di avere un livello di civiltà superiore ad altri italiani, giusto? Siamo a questo anche livello culturale di conoscenza. Benissimo, vai avanti. Abbiamo già detto tutto. Io con questo ho quasi terminato, diciamo, il quadro tu di Massimo. Ma io ho scoperto negli ultimi 4-5 mesi che ci sono 6-7 persone al mondo che sono più intelligenti di me. E io con quelle faccio riferimento. Chi sarebbero? Per esempio, fammi un esempio. No, ne conosci, roba di Spagna, di Norvegia, di Danimarca, ne conosci persone con profondità della conoscenza. Sì, hai approfondito la conoscenza di 4-5 persone più intelligenti di te. Guarda, il motto giusto è questo. Se mi considero, mi deprimo. Se mi paragono, mi esalto, però. Vabbè, quello cioè, che cazzo vuol se dire? Io mi considero... No, perché è un senso di modestia di se stessi, ma poi abbiamo quando trovato Massimo da Roma, che pensa di essere culturalmente superiore agli altri. Beh, e che sostiene esatto, superiore. E sostiene che sono importanti gli assistenti civici, che è una delle più grandi puttanate, peraltro abolita, peraltro soppressa, peraltro non più considerata, elaborata da codesto governo. Non hanno avuto coraggio, intanto è stata accantonata e non viene più considerata. Benissimo. Giuseppe, tu sei d'accordo se con l'intelligenza me, ha partorito Massimo da Roma, se l'intelligenza e se la cultura ha partorito Massimo da Roma, ragazzi, stiamo messi male. Arrivederci, ti saluta l'ingrifato. Ti saluta l'ingrifato. Ciao. We are the fire in the attic. We are the voices in the static. Bene, abbiamo messo a posto sto coglione. Andiamo avanti ancora. Marco da Milano. Benissimo, Marco da Milano. Vai, Marco, dimmi. Marco? Sì, sono qua. E forse parla allora? Sì, tu mi hai rotto il cazzo, te lo dico. Ottimo, quanto godo, amico mio, quanto godo, sto qui, sono sì, qui. Sì, ma ti vorrei mandare a fanculo perché sono già intervenuto tre volte nella tua trasmissione. Devi stare una volta mi tagli, una volta parli di squirti. No. Fermi. Mettiamo ordine alla cosa, Marco. La persona al microfono è leggermente alterata, mi sembra di capire, no? Leggermente alterata, lo dimostra nel suo incedere, lo dimostra nel suo andare avanti, lo dimostra nel suo modo di parlare. Cerchiamo di regolare la situazione finché non può anche trascendere la situazione, però deve trascendere in un crescendo, mi insegni tu, David, no? In un crescendo anche rossiniano. Perché è normale che uno che chiami qua sia così. Perché alterato? Ti ho rotto il cazzo, Marco? Dimmi, perché ti ho rotto il cazzo? Dimmi. Adesso sta continuando a parlare, che sta facendo? Marco, ci sei o non ci sei? Marco, ci sei o non ci sei? Ci sei o non ci sei? Non c'è, arrivederci. Comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Salvatore da Palermo intanto, vai Salvatore da Palermo, vai Salvatore, sì. Dimmi. Sì, allora, io volevo intervenire dicendo questo, ma dimmi, non dimmi. È che i gilet arancioni sono le nuove sardine della destra? Non lo so, amico mio, gilet arancioni sono quelli che sono. Le sardine, ormai sono finite, morte. Oggi, prima hanno detto di essere morte, poi adesso vogliono resuscitare. L'altro giorno non so che cosa ha detto Santuzzo, San Minchia, eccetera. Movimento carsico, ha detto, movimento carsico. Santuzzo ha detto gli italiani devono essere educati, parlando dello ius, educati gli italiani, lo dice Santuzzo. Santuzzo dice che gli italiani dovrebbero essere educati sullo ius soli, ma andasse a fare in culo Santuzzo. È un'opinione. Gli italiani non dovrebbero essere educati su nulla, ma chi cazzo sei? Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, gli altri invitano i virologi in trasmissione, gli altri invitano i virologi, lo sai, no? Parenzo, molti invitano i virologi, sempre meno, sempre meno, ormai in un decrescendo. Noi abbiamo, speriamo che non riprenda il contagio. Io ho un punto di riferimento ottobre. Qui un punto di riferimento, un maestro di vita che si chiama Antonio Zechila. Buonasera, eccoci qui. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Amico mio. Uno dei più grandi, sì. Signor Zechila, devi sapere che io e Natania, sì, durante il lockdown, ogni tanto per rilassarci un po' guardavamo il Grande Fratello VIP. Sì. Non c'è dubbio. Beh, e io all'inizio molto, Natania mi diceva: sai chi è quel signore? Le dico: sì, il signor Zechila. Lei: sì, esatto, il signor Zechila. Allora, e ci fu una performance straordinaria tra il signor Zechila e la Valeria Marini. Ce ne sono state tante, tutte le cose te ne ricordi. Poi importante che ti ha fatto divertire o no, caro Parenzo? Mi ha fatto divertire da morire, mi ha fatto capire quanto sia quanto l'uomo possa cadere in un abisso, un abisso terribile. Ma perché lui è un moralista. Lui è un moralista. Lui è un moralista e vede tutto questo, tutta questa roba qui, la vede come una sorta di trash assoluto, come una roba. Non è l'Accademia della Tocrusca, però. Scusami. Alfonso Signorini, che è stato capace di fare un programma di intrattenimento. Ma no, ma un genio assoluto, difficile. Molto delicato, molto preoccupante. E infatti l'ho guardato anch'io, certo. Ma non è che ci hai fatto un piacere, Valente, voglio dire, come se tu fossi. No, ho detto 10 minuti. L'ho guardato anch'io. Ecco Shakespeare, bravo. Non è esattamente Shakespeare, bravo. Non è Re Lear. È un'esperienza di vita, bravo, che mi ha fatto capire quanto si può cadere in basso. Bravo. Ma perché? Ma perché? Non è che tu sei altissimo, voglio dire. Ma io non sto parlando, io magari sono già caduto in basso, non c'è ombra di dubbio, ma voglio dire, invece il Grande Fratello è una grande esperienza di vita dove mette a nudo l'essere umano. Sì, ti fa vero, capire che nonostante fuori ci sia una pandemia, ci sia un'epidemia così importante, ci stanno 20 persone là che sono pronte ad ammazzarsi per un montepremi. Capisci, però questa è un'esperienza di vita. È la realtà, dovresti capire, Carlo. Che nella vita contano due cose: i soldi e la patata. Quando lo capirai, è l'aforisma del momento. No, ma per questo è il mio filosofo. Per questo è il mio filosofo di riferimento, Antonio. È un filosofo. Nella vita contano due cose, ha detto: i soldi e la patata. Ecco, no, è più filosofo di Fusaro. Su questo non c'è dubbio. Cioè, molto, molto più acuto e pragmatico di Fusaro. Allora, io devo capire. Allora, negli ultimi mesi tu hai rivelato una cosa, caro Antonio, che è questa. Innanzitutto le tue misure, non so se a Parenzo possa interessare. Signor Zechila, ma io vado dal salto, quella non già notte, ne abbiamo già parlato anni fa, ma parliamo da. Appunto, dico, ma no, i 23 centimetri, poi voglio dire, erano quelle le misure vere, no? 23 centimetri mi sembra. Ma no, io sono 52, dai, di spalle. No, ma i 23 centimetri di uccello, diciamo, sono reali o no? Quelle sono uccelli di rovo, dai, lasciamo. Però è reale la cosa, è vera. Ma chi se ne frega? Una volta Braccio disse che tu sei meglio di Rocco Siffredi, voglio dire, ma l'importante è saperlo usare, poi i centimetri più o meno, ma chi se ne frega? Mini dotato, no, però non è la quantità che fa la differenza, è la qualità. Ecco, ma tu piaci al mondo frocio, diciamo, al mondo della molto. Io sono molto amato dal mondo omosessuale ed ho molta simpatia perché ti scrivono, ti cercano, ti vorrebbero, eccetera. Non sei mai stato attratto da un cazzo, ecco, diciamo. diciamola tutta, no, intendi le zanzaresco. No, quello no, proprio se detto proprio così. Sì, in maniera papale, sputatamente no, mai. Molto attratto dalla patata. Io mangio le patate, il pesce mi rimane un po' indigesto. Cioè, il mondo frocio, il mondo come lo chiamo io, il mondo della frociaggine è un mondo che ti avvicina, no, naturalmente ti cerca, lo stimi, lo rispetti. Il mondo omosessuale stimo moltissimo, tantissimi amici che voglio bene, però la mia natura mi porta a andare a destra piuttosto che a sinistra. Cioè, anche il mondo trans non ti attrae, il mondo trans, Antonio? Cioè, non ho problemi, io ho avuto una storia con Eva Robbins, l'ho messa su tutti i giornali, una storia, insomma. No, ma adesso il mondo, però non sei passivo, diciamo. No, quello no, sono molto attivo. No, anche perché con Eva Robbins funziona pure bene, alla mia età, 56, devo dire che ancora testosterone funziona. È molto alto, testosterone molto alto. Ma anche con pasticchette ogni tanto no, mai? No, mai prese, ho paura, Giuseppe, ma perché che paura la nostra età, tu sei un po' più piccolo di me, tre io 53. Anni, tre anni. Vabbè, io ho paura perché siamo nell'età dell'infarto. Hai paura di usare le pasticchette per l'infarto? Sì, senti, ti sottopongo una questione fondamentale che appartiene un po' al mondo della zanzara, parenzo ne è estraneo. Che è il famoso piano Colao in 6 punti. Cosa ne pensa il signor Zecchino? Fa notizia, però farebbe molto notizia Zecchino che commenta Colao, dai che funziona il piano Colao. No, ignoro il piano Colao, non lo so. Benissimo. Ignoro questa parola. Di piano, che sta parlando? No, il piano Colao. Fai il bene a ignorarlo. Colao. Fai bene a ignorarlo. Come ignora? No, ma almeno sapere, non dico dei dettagli perché è appena uscito, ma di cosa. Ma non sa manco Colao? Giustamente chi è Colao, ma giustamente non lo sa, il capo della task force l'ha nominato da Conte, ma che cazzo gliene frega? No, ma lo saprà lui, tu sì. Come, ma non gliene frega niente a Zecchino di queste cose, dai. Ma non gliene frega niente del paese. Ma perché lo tratti come un coglione, Zecchino? Assolutamente no, il contrario. Altro che non coglione. Non è vero. Guarda che Giuseppe mi stima molto e mi vuole bene. Ma quindi no, ma dici che non sai ignorare chi è Colao, ma non ma è, oggi non per è chi dramma. Voteresti? Per chi voteresti oggi, Antò? Io sono sempre per Silvio Berlusconi tutta la vita. Adesso però, ancora oggi per Silvio? Ancora oggi l'unico presidente, ad oggi è sempre Silvio Berlusconi per me, il resto è tutta roba di contrabbando, infatti ci stanno portando allo sbando. Pure Salvini, eccetera, eccetera. L'Italia, secondo te... Salvini mi piace, sono sincero, Salvini è uno giusto, potrebbe essere il giusto eredo di Berlusconi, perché è uno che mantiene quello che dice, ha toppato lasciando il governo, secondo toppato, me. Si vedi, lo vedi. Cioè io vado ai matti. Ma ha ragione, non doveva lasciare il governo, ma certo, ha ragione lui. Ma certo, come fosse Ernesto Galeano e invece Zecchino. Giusto, sono d'accordo. Senti, però la domanda che ti volevo fare fondamentale è questa. Può scriverci per favore per domani un editoriale per il Sole 24 Ore su questo punto? Ma certo, può scriverci per domani. Chiamo il mio amico Sallusti e glielo faccio scrivere da lui, che è il mio caro amico. Così siete amici voi? È interessante. Siete amici voi? Tu lo sai che hanno avuto uno scontro con Parenzo. Non ho altre domande. Hanno avuto uno scontro con Parenzo pazzesco da Giletti, uno scontro pazzesco. Fai risentire tutto. Scusami, però la questione fondamentale, Antò, è un'altra. Pelo o non pelo? Sì. Quello però è una questione di rimente qui per alla zanzara. Giuseppe, da sempre il pelo tira più di un carro dei buoi, non è che l'ho fatto sì, no, io. Sì, no, ma la figa col pelo o senza pelo la preferisci? Ah, senza, tutta depilata. Dai, la brasiliana, si chiama brasiliana. È una ceretta molto particolare che si chiama brasiliana. Cioè tu la vuoi liscia, senza nulla, il pelo non ti piace? Il pelo mi rimane in gola. Ti rimane in gola. No, ma per carità, è vero, cioè, ciò vuol dire che tu ami il cioè, qual è la pratica sessuale che ami di più? Diciamola tutta, in maniera anche cruda, la zanzara, Antò. Ma tu dai, il conilingus da sempre piace all'uomo, come chiaramente all'uomo piace la fellazio. Quindi quando tu operi devi essere un'operazione reciproca, altrimenti diventa statica la pratica. Sì, capito? Altrimenti diventa anche monodirezionale. E poi l'uomo non deve essere coniglio che vada solo a se stesso, egoista. Deve soddisfare prima la donna e dopo e approcciare dopo, al discorso, metti la chiave dentro, insomma. Sì, sì, no, ma questo è molto chiaro, cioè io sposo in pieno questa filosofia, prima accontentare la donna, prima farla venire, prima meglio no, se... quello vabbè, durante, anche durante, però all'inizio bisogna sempre rendere la situazione un po' più umida, altrimenti diventa ci sono problemi. Sì, comunque... Senta, da questo punto di vista, lei che idea si è fatto, ad esempio, signor Zecchino, del salvataggio di Alitalia da parte del governo? Ma che gliene frega? Che potremmo sono fatto? Guarda, ti dico una cosa, io da tempo non viaggiavo, l'altro giorno ho preso un aereo per Milano, eravamo 30 ma chi persone aspetta. In un Boeing da 300 persone, quello però quindi ma voglio dire... Come che c'entra? No, quello è il coronavirus, però sì. Però tu dici, meglio lasciarla fallire, dice, meglio lasciarla fallire invece di metterci soldi. Io mi ricordo che Berlusconi la stava salvando. Beh, adesso, insomma, adesso che le devo dire? Non lo so come è. La compagnia di bandiera, quindi bisognerebbe fare di tutto per mantenerla in piedi. I piedi delle donne, per le persone che lavorano. Certo, i piedi delle donne ti piacciono o no? Cioè ti attirano i piedi come al solito? Non sono un feticista, non sei un feticista dei piedi. E la donna che puzza un po' oppure la donna tutta profumata? Altra questione fondamentale. A me piace che puzza, te lo dico. Quando puzza un po'. No, molto profumata. Beh, certo, meno male. Gli odori non ti piacciono. Pensa che c'è qualcuno che sostiene che il pompino sia un atto di sottomissione della donna. Cioè, sostiene ancora. Ci sono alcune femministe molto oltranziste che pensano addirittura che il pompino sia un atto in cui la donna viene quasi sottomessa, costretta dall'uomo. Anche quando dici troia una donna, l'ho detto l'altro giorno a Amy Schilla, giustamente mi ha detto dire troia una donna. Per me, per esempio, per Giuseppe Cruciani è un complimento quando dico troia una donna. Sì, perché durante l'amplesso uno sprega delle parole, degli aggettivi o dei sostantivi. No, ma anche in generale, dare della al di là dell'amplesso, anche dire a una tu sei una troia sembra un'offesa, no, ma non è un'offesa. Dipende dal momento. Nel momento di un amplesso tu dici delle cose, la donna in quel momento gli le fa anche piacere. Però per quanto riguarda la fellazio, sì, è un atto d'amore che la donna fa nei riguardi di un uomo come un uomo. Ma ce l'ha in pugno, però la donna ha in pugno l'uomo in quel momento, capisci? Ma da sempre la donna ha in pugno l'uomo, Giuseppe. Cioè, sono loro che decidono, loro hanno il banco a mettere i cosci. Che dobbiamo fare? Siamo succubi dell'uomo. Delle donne. Ma assolutamente. Sì, alcuni pensano anche che il sesso L'uomo perché lavora? Perché si adopera? Perché vuole fare i soldi, l'automobile? Perché deve uscire con una bella donna la sera? È inutile essere ipocriti. Questa è la realtà. Capisci, poi che entra il valore, uno si fa una famiglia, fa i figli. A proposito, non ti dovevi sposare tu? Sì, è saltato il banco, quindi sono di nuovo sul mercato. Sei di nuovo sul mercato. Sì. Mi raccomando, non fa sta cazzata di sposare. Ma perché ti devi sposare, amico mio? Ma il matrimonio non è che c'è la garanzia dell'amore, perché due persone pensanti, voglio dire, si possono amare lo stesso. Però il matrimonio è un atto d'amore che la donna chiede a un uomo, come l'uomo chiede la fellazio come atto d'amore. Tu dici che l'uomo chiede la fellazio e la donna il matrimonio. Senti, una conclusione potrebbe essere questa: alcuni pensano che il sesso anale sia una cosa sporca. Sia una cosa violenta. Basta usare delle pompette prima. Cioè, basta allargare prima. Sì, basta lubrificare. Poi ci sono degli oli, ci sono delle creme. C'è il Luan che sicuramente conosce Parenzo, visto che prima mi ha detto che io non conosco niente. Non ha mai praticato quella. È come il fatto che lui non conosce Colau, ha la stessa importanza, guarda, Io non conosco Colau e lei non conosce il Luan. Comunque, ragazzi, la donna che ti arrapa di più, Antonio Zechile, la donna conosciuta o quella o la barista che incroci per strada, amico mio, lì è fondamentale. Allora ti do un'esclusiva, Giuseppe. A me piace molto Maria Elena Boschi. Ti fa impazzire. Sì, perché è una donna dolce, però secondo me nella sua dolcezza nasconde la sua sensualità. Sì, diciamo che è una che ti arrapa moltissimo. Cioè. Mi piace molto, c'è questa faccia dolce, però secondo me nasconde una sensualità inespressa. Deve trovare quello giusto che le ha tiri fuori. C'è la che fa scatenare solidarietà a Maria Elena Boschi. Solidarietà. C'è Maria una che può scatenare la bestia con quello giusto, diciamo. Può scatenare la bestia. Diciamo di sì. Essere tu, vorresti essere tu, diciamo. Cioè, la incontreresti, ci usciresti a cena. L'ho conosciuta, ci siamo conosciuti un giorno al Senato, devo dire una ragazza molto bella, molto educata. Che ci faceva Zechile al Senato? Scusi, fermi tutti. Che ci faceva Zechile al Senato? Ma che paese è questo? Sono andato a trovare degli amici senatori. Non c'ho il blocco sulla porta. Esatto, quelli della Lega al Senato. Però scusa, l'hai conosciuta allora? No, in tempi non sospetti, un po' di anni fa, ci siamo conosciuti. E devo dire che è stato un bel incontro. Ce l'hai ancora in testa. Vabbè, sì, a Laterina, devo fare un giro a Laterina. T'abbraccio, amico mio, a presto, vieni presto. Ti aspetto presto. Ciao. La Zanzara. Amo quanto mi ami. Dillo tutto il mondo. Tutta la vita. Io voglio sapere da quel bugiardo di Conte, perché l'unico bugiardo è lui con la sua compagnia bella che è Di Maio, Zingaretti, perché al governo ci sono loro. Tabi! Io potevo essere stipendiata. Allora senti, scusa, io non voglio contestare quello che fate in questa trasmissione, io manco la conoscevo in realtà. Io ti ho chiamato perché la tua trasmissione, io ieri l'ho sentita per 2 ore, mi avete fatto letteralmente cagare. Complimenti agli amici della Zanzara. 130 chilometri percorrendo la via degli dèi, da Bologna a Firenze a piedi, e si ascolta la Zanzara. Tabi! Tabi! Torno al presidente Silvio Berlusconi per un'ultima domanda. Allora, presidente, c'è? Sono qui ad attendere l'ultima domanda. L'ultima domanda è un po' birichina. Come vede, presidente, il suo futuro? Perché qualcuno parla di Quirinale. Chi parla di Quirinale? Veramente birichina, eh? Eh sì. Presidente, presidente! Qualcuno parla di... Ma chi? Ma non è vero. Ma non è vero. Cosa dite? Qualche volta Barbara, guarda, era dalla D'Urso, dov'era? Qualcuno, una qualcuno domanda parla veramente birichina. Ma è fortissimo. Qualcuno parla di Quirino, ma nessuno parla di Quirino. Te con Salvini. Te con Salvini. Ma vai a fare in culo. Caro senatore, una domanda birichina. Qual è il segreto del suo successo? Tu con Cairo. Qual è il segreto del suo più grande successo? Guarda che sei veramente una vergogna. Come si fanno a catturare più migranti? Una domanda veramente birichina. Presidente, presidente, presidente. No, quello ero io al convegno di Confindustria. Diverso, diverso. Scindere. Spatalino? Una spolverata di Spatalino, Parenzo. Ci vuole a questo punto. Non serve, c'era già Zecchina, basta, c'era già Zecchina, basta. No, Zecchina è il numero uno, dai su. Vuoi paragonare Zecchina con Spatalino? Zecchina. Giganti, dai su, dai. Beh, cioè sono sullo stesso piano, dici, fanno parte della stessa minestra, dici tu. No. Il signor Zecchina. Qualche mia sentinella mi ha mandato questo video, un sacchetto a perdere, perché uno che sputa sulla frutta è sacchetto a perdere per definizione. Dai, io sono obiettivo. Viva questo fruttivendolo, lo proporrei per la medaglia al valor civile. Così vanno trattati certi elementi, perché tu non puoi sputare sulla frutta. Ed è giusto che il fruttivendolo l'ha preso a sberle. La prossima volta quel sacchetto a perdere straniero ci penserà 10 volte prima di sputare sulla frutta. Vi sputo tu. Scusate, ma Spatalino, dove sono le sentinelle di Spatalino? Cosa sono le sentinelle di Spatalino? Le sentinelle di Spatalino, cosa sono? Mi ricordano tanto le cartuccelle queste, cioè le cartuccelle. Ancora con le cartuccelle. Le sentinelle. Io ho solo visto una cosa in questo fine settimana, ho solo visto una dimora con una villa e un ascensore interno e un padre che nella culla col bambino piccolo cantava canzoni comuniste. Io ho visto solo questa, Antonio da Piacenza. Qualche mia sentinella mi ha mandato la sentinella. Questo video. Quali senti? Antonio da Piacenza, vai. Antonio, dimmi. Ciao. Dimmi. Una cosa velocissima, perché non avete parlato. Alla fine noi non parliamo di tante cose, amico mio. No, alla fine del radiogiornale. Non sentiamo niente, però. Voce che si sente male, malissimo. Dico che alla fine del vostro radiogiornale ho sentito una roba veramente vergognosa. Prima di tutto, dico subito a Parenzo di stare calmo. Lo so che non è reato. Però in un paese come l'Italia, dove ci sono stati tanti morti, è vergognoso che il cognato e la moglie del governatore della Lombardia abbiano una società che abbia venduto dei camici alla regione. È una cosa vergognosa, un conflitto di interessi incredibile per me è un ci sono le inchieste, ci sono le inchieste, vediamo se è reato o non è reato. Io se ti non chiedo è di martellare su questa cosa qua, ma di non rompermi i coglioni, ma non lo so, ma devo martellare, mi voglio divertire io, no? Martellare su che cosa? Non lo so, certamente bisognerebbe evitare gli affari con i parenti anche del settimo grado, secondo me. Non so come sia avvenuto quell'affidamento di quell'appalto lì, non ho letto delle cose. Grazie, cosa vuoi che ti dica? Non lo so, a mio parere, secondo quello che penso io, normalmente gli affidamenti, o non lo so, le gare, eccetera, dovrebbero essere escluse le persone fino al settimo, decimo, quindicesimo grado. Non so adesso come sia andata quella roba lì. Se poi nel caso specifico, vista l'emergenza, quella era l'unica. No, ma per completezza, se poi nel caso specifico quella era l'unica società che era in grado di garantire in tempi stretti l'arrivo di questi cavi, c'è un altro discorso. Ma di norma è molto grave che chi ha un ruolo di comando e di decisione possa trarre un vantaggio. Ti saluto. Ciao, Filippo D'Alecco, dai, Filippo D'Alecco, vai, Filippo, dimmi. Buonasera. Dimmi, devo rompere il cazzo con queste puttanate, dai, Filippo, dimmi. Allora, sì, buonasera. Ma Parliamo, dai, forza, Filippo. Mamma mia, ma andassero a vedere Piazza Pulita o altre stronzate, ma chi se ne frega? Ma sì, ma andassero a vedere Piazza Pulita, le inchieste, va bene, che devo fare? L'inchiesta io sull'appalto di Fontana? Ma un commento su una cosa che ha fatto molto rumore, perché è un'inchiesta che qualcuno voleva bloccare, peraltro. Perché l'altro aspetto grave è che sembra che qualcuno volesse bloccare quelle inchieste in Italia. Non ti preoccupare, Filippo, non qualcuno ti preoccupare. Ci prova ogni tanto. Più dall'altra parte ci provano a bloccare le inchieste, non ti preoccupare. Quando si devono inculare qualcuno di destra, se lo inculano volentieri, come prova il caso Palamara, dall'altra parte sono molto attivi nel fare lobbying. Palamara è scoppiato, e come il caso Palamara? Filippo, il caso Palamara mi pare abbastanza, mi pare scoppiato in tutte le sue, in tutti i suoi rivoli. Parliamo di questi benedetti. No, però non puoi dire così e poi non si sente un cazzo, Filippo, scusami, cioè non si sente una sega, amico mio. Che ti devo dire? Dove sei? Con che ti sei collegato? Non si sente una stramaledetta mazza di nulla, chiaro? Non si sente così un cazzo. Dice? Dai, dimmi, sentite? Forza. Dai. Sentite, ecco. No, dicevo, parliamo di cose importanti, parliamo di questi benedetti negri, quello che hanno ammazzato negli Stati Uniti, tutte le manifestazioni maledette che sono avvenute in Italia, a quali però Crociani, me lo dica lei. No, ma l'ho già detto, Filippo, tu hai già detto negri eccetera in maniera così, diciamo, senza senso. Il punto è un altro. Le manifestazioni, a mio parere, in Italia sono, ognuno è libero di fare quello che vuole, sono manifestazioni di solidarietà che a che cazzo servono le manifestazioni in Italia su quello che succede negli Stati Uniti? A nulla, allo zero totale. Serve. Come? Sergio a da far Trieste, sentire vai, una Sergio solidarietà internazionale. Dimmi Sergio, dimmi. Mi senti? Sì, scusami, Cruciani, mi sei anche simpatico, ma sei un po' scemotto. Ti stanno prendendo sicuro per il culo con questo squirting. Sì. Ti stanno prendendo per il culo. Dico perché mio, tu è tre anni che parlo di questa roba qua. Ascolta, ma appunto, è ora di finirla. Ma scusa, quelle è arrivato il professore, scopri, dai. Scusa, è arrivato ma il professore. No, mi lasci parlare un attimo. Tu dimmi, anatomicamente una donna come può squirtare 3 litri di liquido? Ma è impossibile, tu quelle poche volte che scoppi, che ne sai, esistono dei casi umani con anche coglioni, esistono con due coglioni che hai sotto, hai le palle. Io ce n'ho anche tre volendo, però Sergio posso dirti una cosa? Non farti prendere per il culo, sei scemotto, non esiste. È arrivato il professore. Anatomicamente non è non vero, esiste. ci sono delle donne in grado di squirtare quantità notevoli. Ma perché ti incazzi su una cosa così? Non c'è da incazzarsi, c'è da ridere. Non è che dobbiamo fare il dibattito con litigio su quanto squirtano le donne, mi sembra ridicolo. Come in politica, squirtano 2 litri o squirtano 3 litri? No, figlio di puttana! Mi sei simpatico, ma ti prendono per culo. Ma chi te l'ha detto? Allora posso dirti, in alcuni casi ho visto con i miei occhi in alcuni casi. Con i miei occhietti. Allora continua a prenderti per il culo e prendi per il culo anche gli altri, insomma, non esiste. E tu come fai a saperlo? Sei un medico? Sei un medico? Che cosa sei? Un esperto? Dirlo, non posso, non puoi dirlo. Chiami, mi dici, sei uno stupido. Non ti fare prendere per il culo e poi non, dici, non vuoi nemmeno dire chi sei. Conosco l'anatomia del corpo. Che cosa sei? Un medico? Un patologo? Cosa sei? Conosco l'anatomia, ti dico che conosco l'anatomia del corpo. E che cosa vuol dire conoscere del corpo? Sarei un medico sicuramente. Un medico, sa un patologo? Chiedi a Davide. Un internista. Davide, chiedi a Davide se lui riconosce lo squirting. Ma Davide non si interessa di queste cose, non lo sa. Non è un argomento sul quale ho fatto alcun tipo di studio, né di approfondimento. Nessuno ha mai squirtato addosso a Parenzo, questa è una certezza. Possiamo dirlo, Davide, possiamo dire questa cosa qua. Possiamo dare allora, dato che tu sei un esperto, perché ne parli da 3 anni, spiegami anatomicamente come succede lo squirting. Che vuol dire come succede? Che vuol dire, certo, come succede? Ma ti posso fare una lezione? Non è questo il caso? C'è un movimento interno, allora, un qualcosa che all'interno scatta insieme ad una, come dire, ad una produzione in parte di urina ed esce un fluido forte, uno schizzo potente. Ma non è una questione di in alcune persone può arrivare. C'è un flusso urinario e questo ti piscia in testa. Praticamente il discorso finale è questo. Stai dicendo che è solo urina? Questo è lo squirting. Stai dicendo 99% solo urina, perché non puoi essere altro. No, assolutamente. No, si informi, non è così. Si informi, no, no, non guarda, è così. Si informi. E lo dici, ciao, tu in virtù di che cosa? Chi sei? In virtù di cosa? Sergio. Conosco l'anatomia del corpo. Sì, ma ho capito, ma cosa fai? Cosa fai di mestiere, Sergio? Il medico? Cosa fai? Il professore universitario? Lo dico a te, sei intervenuto, avrai una voce riconoscibile, no? Vabbè, ho lavorato nell'azienda ospedaliere. Nell'azienda ospedaliere? Che vuol dire? Uno può fare anche portantino nell'azienda ospedaliere. L'autista, l'amministrativo. Che hai fatto? Vuota pappagalli. Appunto, hai svuotato i pappagalli, ma cosa degnissima. Perché consideri così quelli che svuotano i pappagalli? Scusa, ho persone degne. No, vabbè, guarda, chiudiamo il discorso. Ma hai chiamato tu, però. Hai chiamato tu. Sì, ok, va bene. Lo chiudo, ciao. Hai chiamato tu, ma voglio sapere chi sei, che ruolo hai. Perché hai telefonato? Perché? Per di starò. La zanzara. Oh. Ma che parlate? Voi state bestemmiando! Ho capito, ho sbagliato! State bestemmiando! Magari una volta, infinite volte! E fa ridere quelli attorno a te! E mi meravigli magari abbiamo sbagliato a parlare! Mi meravigli di voi che magari abbiamo sbagliato a parlare! Non si deve bestemmiare! Hai capito? Speriamo che mi senta tua moglie! Romina! Se te ne dormi, vattene a fangolo a dormire, che mo' mi ingazza veramente, non Romina! Via da questo canale. Cucciani, noi ti amiamo dal profondo del cuore. Ti amiamo. Ti amiamo tantissimo. Tu sei l'uomo della mia vita, Cucciani. Fantastica. È la fine di una stagione politica. È la fine di una stagione, politica. Come dice Parenzo, è la fine di una stagione politica e noi ti amiamo. Allora ragazzi, quello che succede a Viareggio ha veramente dell'incredibile. Sai che cosa ha fatto il sindaco per dare un paio di multe a due disgraziati? Ma dico disgraziati perché hanno preso una multa, mica perché vanno a puttane. Due signori, credo uno molto giovane e l'altro piuttosto anziano, frequentatore di prostitute su una via molto trafficata, ma non trafficata in centro, vicino a una pineta a Viareggio, e si sono avvicinati a due signore che passeggiavano. E per andare a prostitute, per rimorchiare due prostitute, per chiedere delle prostitute quanto costa, quanto non costa la prestazione, un normale scambio che avviene dappertutto, in tutto il mondo, in Italia, cioè un normalissimo scambio di do ut des, a mio parere. Comunque, invece di essere prostitute, queste qua erano vigilesse. Cioè, il sindaco cosa ha fatto? Ha messo due vigilesse, con abiti succinti, abiti civili, dai, un trappolone, un piccolo trappolone. No, ma con abiti civili, ma non in maniera smaccata. Due che passeggiavano lì, che hanno chiamato delle pattuglie intanto, mentre questi qua chiedevano informazioni, e sono arrivate delle pattuglie a fare multe da 300 euro a questi signori. Ora, questi qua vanno liberati, e questo sindaco va attaccato per questi mezzucci con cui si è, come dire, procurato 300, 400, 500 euro. Questi non devono pagare nulla, non devono pagare niente, perché con questo trucco assurdo con questo trucco assurdo, il sindaco di Viareggio ha fatto una cazzata. Ma che roba è mettere due signore, ha turlupinato questi signori che sono dei legittimi puttanieri italiani, i quali in cerca di amore, in cerca di sesso, in cerca di una prestazione, in cerca di un soddisfacimento personale, andavano a soddisfare un'altra esigenza, che è quella di denaro di un'altra persona. Multa. Ottimo. Puoi fare la multa, ma non puoi ingannare mettendo due vigilesse lì, perché quelle non sono prostitute, dunque non c'è nessun adescamento lì. Si sono fermati, non so in base a che norma, sicuramente si saranno inventati una norma che può reggere il caso, non lo so, ma fare ricorso immediatamente, direbbe Capanna, fare ricorso sic et simpliciter, no? Sic, come no, direbbe Capanna, fare ricorso multa, subito, fare ricorso il corpo subito della donna. Ricorso subito, ma che sfruttare il corpo di una donna. Intanto, meanwhile, un signore che è consigliere comunale di San Daniele del Friuli, tale Giovanni Candusso, scrive: oggi nelle manifestazioni fatte da centinaia di sardini a Milano e Roma contro l'uccisione di quel delinquente e violento di George Floyd, quei poveri ragazzi dalle ignare e usate sardine si sono permessi di alzare tutto il braccio con il pugno chiuso notoriamente comunista, senza che nessuno li abbia preventivamente fermati. Allora dichiaro che siamo in regime dittatoriale legalizzato di parte sinistroide. Costui, non so se sia, come dire, tanto ragionante, si chiama Giovanni Candusso, ma appunto per questo lo chiamiamo. Sì, pronto. Oh, Candusso. Salve. Come andiamo? Può solo immaginare, no? Siamo in regime dittatoriale, legalizzato. In che senso, scusi? In tutti i sensi, perché basta vederlo in pratica su ogni forma, sia mediatico che politico che sociale. Io la vedo così. Sì, ma qual è questo regime? Da parte di chi? La sinistra italiana, è talmente evidente. Sì. Ma questo perché tu hai detto che questo George Floyd è un delinquente, un violento? Perché non era vero? Beh, non lo so, delinquente lo è stato, poi era uscito dalla galera. Violentava anche la moglie, da quel che risulta. Violentava la moglie, non risulta. Questo non risulta da nessuna parte. Sì, l'ho letto in vari posti. In quali posti l'ha letto? No, mi interessa dove l'ha letto, dove l'ha letto? In internet. Adesso ricordarmi. Sulla rete l'avrà letto in internet. Allora ha fatto bene la polizia ad agire in quel modo, dice. Tutto, cioè... È stato, lo descrivi tu dai social. Poi adesso ci troviamo magari in una situazione in cui ci sono molti fake compagnia fake. Bella, come si fa a indovinare qua? Ma lei è consigliere comunale, giusto? Certo. Sì, voglio capire, dov'è sto regime dittatoriale? No, tanto per capire, dov'è sto consigliere comunale? Dove? Ricordiamolo, dove è consigliere comunale? Quale partito, Candusio? No, io sono indipendente. Indipendente, sì. E lei è molto... Ma indipendente del centrodestra, però, immagino. Certo, certo. Scusi, ma... Certo, mai di sinistra, scusa. Mi mai. Taglio le no! mani io. Come ti taglio le mani? Perché i comunisti che sono per lei? No, guardi, per me sono gente da evitare a priori. Certamente e a priori. Quelli che fanno il pugno chiuso ancora nelle manifestazioni, lei come... Sì, lì, perché c'è il rischio che dentro il pugno chiuso ci sia anche un sasso, invece la mano tesa è aperta, non c'è problema. E lei la fa spesso la mano tesa, no? Il braccio teso lo fa spesso, il saluto romano. Ma, no. Voglio capire una cosa, dica, sua eccellenza Benito Mussolini, rispetto a questi comunisti qua, rispetto a questi sinistroidi, era di un'altra pasta, era di un'altra caratura, no? Immagino, secondo lei. Ma per me certamente, da quello che ho letto io e da quello che mi ha raccontato mio nonno e mio padre, cioè era uno statista vero sua eccellenza Mussolini, cioè. direi di sì, molto più statista di questi, anche di questi che ci stanno adesso, no? Giusto, se ci fosse oggi sua eccellenza farebbe molto meglio di loro. Vorrei ricordare, lei è stato eletto, no? Quindi è in consiglio comunale, certo. Giusto, lei ha bevuto un po' stasera, no? Io non bevo, no, perché sono autista, non bevo mai. Io. No, perché io non vado in osteria, non vado, bevo acqua. Quindi le sue sono proprio idee. Sì, chiaro, infatti sarebbe meglio se lei bevesse, perché almeno giustificherebbe, come dire, un certo livello delle sue idee. Però niente, ah, lei certo, dice la gente deve, che vuole offendermi su Facebook dice che tu giri in osteria, la chissà cosa fai, e invece io le osterie non le conosco. E dice quindi lei è scemo naturale, questo sta dicendo. Lei è scemo naturale, quindi lei è scemo naturale. Adesso è naturale. Candusso, io voglio capire. Ma dove stiamo? dai, che siamo ancora a discutere con questa gente che sono dei disgraziati e sono rimasti tali. Ma chi? Chi sarebbero oggi i comunisti? I comunisti, i post-comunisti, che sono peggio dei comunisti originali. Ma chi? Chi? Chi? Chi sarebbero? Mi dica, mi faccia dei nomi. I post-comunisti, quelli che sono del PD in genere, quei partiti lì. Ovvio. E che vanno a fare le manifestazioni per strada con il braccio, con il pugno chiuso, mi sembra, no? Ma le sardine le vedo strumentalizzate in questo senso. Ma dov'è sto regime poi? Dov'è sto regime? Non ho capito, dov'è sto regime, Candusso? Dov'è? Il regime si sta già vedendo con la magistratura, con tutto, con quello che fanno a me sui giornali, in consiglio, che si permette l'avvocato Spitaleri. Ma che dire cosa ma ci sta l'avvocato? Le spiego una cosa molto semplice. Lei dice delle scusi. Aspetti, sia zitto. Scusi, professore, scusi, notaio. È molto semplice. Non c'è nessun complotto. Lei dice una stronzata, come ne ha dette tante oggi, e i giornali riprendono le stronzate che lei dice. Non c'è nessun complotto, nessun attacco, niente. È molto più semplice la cosa. Lei cosa dice delle stronzate. Oggi proprio le ha, come dire, ha detto che Sua Eccellenza è stato un grande statista, Sua Eccellenza Benito Mussolini. Su, dai, Candusso. Ma può un consigliere comunale tantissimi vecchietti anziani appunto, che sono vecchietti, appunto, sì. Ma può un signore che fa il consigliere comunale fare l'elogio di Mussolini? Secondo me no. Dai, su. Ma perché gli altri possono fare dei loro comunisti, diciamo, dei loro comunisti. Quelli sono perfetti, no? Comunque lei è un ammiratore di Mussolini, dai. Lei è un ammiratore di Mussolini, diciamo la verità. Si dovrebbe dimettere immediatamente dal Consiglio Comunale. È indegno di partecipare alla vita democratica uno che fa l'elogio di Mussolini. Lei è indegno di questa roba. Uno che è rimasto per circa 30 anni al potere. 20 anni, sì. Allora? Come mai non hanno trovato un fascista e ha fatto c'era la dittatura, amico mio. Guardi che lui era maestro elementare proprio in Friuli. Ma c'era la dittatura, ma chi se ne frega? C'era la dittatura con il signor Mussolini, ha capito? E qui in Friuli è molto apprezzato lui. Ma me ne fotto che sia molto apprezzato. Era un dittatore criminale, punto. E quelli di oggi lo stanno diventando piano piano. Ma vada a quel paese. Ma lei si deve dimettere immediatamente. Buona impegno serata. Che non è altro. Arrivederci, saluto arrivederci. Di Milano che qui piove. Arrivederci, Candusso. Incredibile, Antonio da Potenza. Vai, Antonio. Dimmi. Non è incredibile. Antonio, dimmi, Antonio, dimmi, vai, veloce, vai. Una domanda a Parenzo. Cosa c'ha contro i camionisti stasera? Cosa hai contro i camionionisti? Nulla, anzi. I camionisti? No, che hai detto prima? Che hai detto? Cosa hai detto? Adesso chiama il camionista di turno. Bravo, Antonio, subito l'hai pizzicato. Non quello generico, il Carmine. Ma tu ci hai dato per deficiente. Bravo, bello, non mollare l'osso, Antonio. Io tenderei, se mi conosci e mi ascolti, sai che io, a differenza di Feltri. Non ti fare prendere in giro dalle parole, a differenza di Feltri, Cruciani, Del Debbio, Mario Giordano, eccetera. Antonio, io non vado per categorie, il nord, il sud. Stai attaccato ai garretti. Sarebbe Carmine, il solito che chiama fascista, eccetera. Io non ragiono per categorie. Per me non è il sud. Non ti fare prendere in giro, Antonio. Non volare. Le persone, non le categorie. Il solito camionista di turno Carmine, che è quello che chiama tutte le volte, che è il solito idiota. È quello il solito. Antonio, per chi voti tu? Perché partito voti tu? Perché movimento voti, Antonio? No, e questo è poco 5 interessante. Stelle. Ora. 5 Stelle. Vabbè, adesso ho detto questo è poco interessante. Ma come poco interessante? Lo chiedi sempre. No, pare quello chiedi. Che gli pare. Ma lo chiedi ma sempre. Caso, lo chiedi. Lui ha equivocato quello che ho detto io. No, quindi non ha equivocato. Non molare, Antonio. Io non ho mai ragionato. Io non ho mai ragionato per categorie. Non ho mai detto il nome. Non ho mai detto. Scusami. Io non ho mai detto in quale fermo città, qua, ad esempio, e in tutti, quale città, mai, tutti, mai. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ospedale Bolzano Krankenhaus Bozen. Caro, te lo sai già, non è di ora che ti esci con me, te lo sai, quanto te mi paga a Milanino e allo stesso prezzo a casa, non custa niente, no? Non custa niente, ti fa la macchina è meglio fare a casa, che sta più tranquillo, no? Che non c'è nessuno per rompere i coglioni. Allora se te vuoi venire a casa mia, te mi chiami, o indirizzo è qui, che ho già lasciato l'indirizzo qui, te mi chiami, ti... Dici che ora te vieni, ti aspetto, o se no te fai a Milanino e basta. Cosa? Perché io non sono andando a Milanino, con questo periodo non sono andando con a Milanino, sto lavorando a casa, capito? Quando? Allora ragazzi, collegamento, caro Parenzo, con Colorado Springs, United States. Indovina chi c'è a Colorado Springs. Chi ci può essere secondo te a Colorado? Ma potrebbe Springs? Esserci qualche testimonianza che ci racconta delle proteste che in tutti gli Stati Uniti, dalla East Coast, si espande un po' in tutto il mondo. Per ricordare la violenza assolutamente fatta dai poliziotti a una persona morta, un afroamericano morto nelle mani dello Stato. Questo potrebbe essere. In collegamento da Casa Morellato, Michela Morellato, perché c'è aria di crisi a Casa Morellato, showgirl, scrittrice, possiamo dire anche moglie di un militare americano che si chiama Adam, coinvolta in un caso conosciuto in Italia con un generale, ma insomma è acqua passata, ha fatto causa al Pentagono. La mia amica Michela, come stai? Ciao Parenzo, mi dispiace che non mi hai pensato subito che ero io, però vabbè. Buonasera, perdono. Cara signora. Beh, come sta, mia, cara cioè... signora, come sta? Non sto bene. No, sto bene perché mi sto svegliando. I'm awake. C'è una rivoluzione già è vero, in America. Lì sono... sì, c'è una rivoluzione. Sì, sono lì, effettivamente. E anche a casa mia c'è una rivoluzione. Qua sono le... un giorno e mezzo. Ecco, però scusami cara amica, che cosa sta succedendo a Casa Morellato? Perché mi sembra di capire da quello che mi hai detto che tuo marito ti trascura. Insomma, la cosa è abbastanza grave dal punto di vista sessuale. Lo dice questa alla è importante. Radio, scusa. Fammi lo capire, sì, glielo vuole comunicare alla radio anche in inglese, chiaro? Dunque. Sì, gli voglio dire, no, si è arrabbiato perché dice che ho speso molti soldi, ma io dico, sono stata 2 mesi a casa. Sì. È normale che sono stata su Amazon, no? Sì. Si è arrabbiato, adesso non me lo dà più. Non adesso te lo dà da una più, settimana, sì. No, da una settimana. Cioè, io sono tutta agitata. Allora, ieri sono andata un po' con i miei amici di Instagram, ho fatto 2 Instagram mentre sfoggiavo il mio costumino nuovo che ho comprato. Sì. E allora lì ho visto che c'era un po' di attenzione da parte Beh, di sì, mi pare abbastanza normale, sì, mi pare abbastanza normale. Dunque? No, però non va bene adesso, non è che mi può ricattare adesso, ma ti rendi conto? Ma cosa si sono invertiti i ruoli, adesso è l'uomo che se lo fa, che se lo tira. Cioè, praticamente non ti dà, ora diciamo la verità, non ti dà il cazzo da una settimanina circa, giusto? Da una settimanina. Sì, sì. Da una settimana. Conto, ma... Cioè, sì. Sono qua, mi tremano le mani. Cioè, no, tu in questo periodo sei anche molto calda, o sbaglio? Sei anche molto calda, cioè sei anche molto propensa al sesso in questo periodo, no? Ma sono sempre così, Giuseppe, ormai ci conosciamo, sai sì, come sono fatta. Sì, questo è vero, sì, sei molto calda, sì. Non ha altri interessi, dico, diciamo. Questo qua, ma, no, sì, ha tanti interessi. Ognuno... No, ho molti interessi. Ha molti interessi. Sì, però insomma, diciamo il sesso, il pisello è una. No, è una delle cose, ma è normale che sia così. Una donna. Sì, che... è normale, ma non è normale farci una trasmissione radiofonica. Ma questo come no? Io, no per me la signora è normale. Posso dire, per me la signora è normale. Figuriamoci. Che stai facendo? Adesso, che stai facendo? Praticamente davanti a casa mia c'ho una chiesa, no? Una chiesa. E sì, tu lo sai che sono un po' bigottini, no, sono proprio davanti alla terrazza. Sì. E sono qua che sto camminando in topless. Sì. E sì, intanto il cino prima stava innaffiando, ha innaffiato per tipo mezz'oretta i fiori, non so quanta acqua servivano, però è molto divertente. Cioè, provocare queste persone, cioè non c'è niente da fare in questo periodo, non vedo l'ora di tornare, tra poco torno, tra qualche settimana vengo in Italia, non me ne frega ottima niente notizia, del coronavirus. Ottima notizia, e sì. Quindi arrivo, vi vengo, cioè mi mancate ragazzi. Cioè, però scusami, siamo alla crisi a casa Morellato, cioè praticamente... Ma il marito rimane negli Stati Uniti, immagino. Ma dov'è in questo momento Adam? Quindi il marito rimane negli Stati Uniti. È andato a fare una... Lei viene in Italia... E quindi diventerà il corno, diventerà più cornuto di un cesto di lumache praticamente. No, non è vero, ma non è corno, ma è per questo che sto male, perché sai che non gli ho mai fatto le corna. Allora io vado direttamente al divorzio, io non faccio le corna. Ma perché vuoi divorziare? Perché non ti dà il cazzo? Non ho capito perché. No, perché non mi piace questo metodo. Ultimamente non mi va bene questo metodo. Cos'è? Cioè lui ti rimprovera, lui ti rimprovera perché tu spendi troppo, questo è il punto. Ma spendo cosa? Ma niente, non spendo niente, sono bravissima, dai, sono bravissima. Cioè, tu poi sei una costosa, diciamo la verità. Se una basta, cioè, se uno sta, va con te, se deve sapere che sei una costosa. Ma dove mi porti a mangiare quando arrivo? Non lo so, tesoro, dobbiamo decidere anche sessualmente che cosa fare. Anche sessualmente, come. Però avverti un attimo tuo marito. Dopo una settimana, in inglese, digli diglielo in maniera molto, molto esplicita in inglese, caro Adam, come se gli facessi una letterina al militare Adam, che in questo momento Smith, è impegnato con Adam le Special Smith. Forces. Diciamolo, è impegnato con le Special amore. Forces. Amore, ti è impegnato adesso sì, e via con le Special Forces. Forza. Amore, ti dico, I am in national radio for begging you that I need your penis. I love you. But if you don't give contento. Me that, I need to leave. I need to fly away and I need to find a happy island somewhere else. Right? Dunque, I need you, I need to fuck, dillo in maniera chiara, I need to be fucked. I want more sex, I need to be a lady, come on, dai, devo fare un po' la signora, I want more sex. I want more sex, cioè. Ok. Cosa vuoi ti dico? Ma dico, devi attirarlo con la carogna, non con I want more sex. Ma che roba è I want more sex? Amore, I want to fuck you very hard. Amica mia, in collegamento abbiamo naturalmente da Codroipo il maestro di tutte queste cose che si chiama Max Felicitas. Eccoci qui, caro Max. Siamo al completo. Grazie. Come stai? Hai sentito questo grido di dolore da parte di Michela Morellato? Potrei invocare l'Istituto Superiore di Sanità e l'assembramento. Dimmi. Sono proprio entrato nel mentre diceva questa frase in maniera tipo da 899. Devo dire che sono molto eccitato in questo momento. Ecco, esatto, potrebbe essere una soluzione giusta, perché Max Felicitas, devi sapere, è praticamente uno dei principi. Lo conosco. Lo conosci? E come lo fai a conoscerlo? Scusa, non ho capito. Non è il pornottore. Sì, il pornottore, che hai fatto? Ti sei fatta qualche ditale su cosa? No, ma mi sembra che è amico di amici in comune, insomma. Amici in comune. Ma pensa a te che bel giro. Ma pensa che bel giro che è. Comunque, lo conosci. Lo conosci. Allora, Max, hai sentito Michela che ha fatto praticamente un'invocazione al marito che non la scopa da un po' di tempo. Questa cosa bisognerebbe rimediare. Come rimediare a questa cosa? Tra poco viene in Italia. Ci potrebbe essere un grande incontro, un grande meeting, no? Io le propongo un colloquio, sì. Una cosa a due, una cena, sì, per parlare di questa cosa e vedere se può trovare una soluzione. Sì. Ma nel mentre volevo chiederle, sì. Intanto io mi sono andato a vedere le sue foto, devo dire che ha due tette incredibili. Tanta roba, devo dire. E, diciamo, sognerei di fare qualsiasi cosa su quelle tette lì. Ma la cosa importante è, vorrei sapere, questa crisi è dovuta anche dal fatto che magari lei è un po' frenata in certe cose, cioè lei si sviluppa nel sesso. Cioè, ecco, appunto, no, ma il problema forse è il marito. No. Cioè, il problema sei tu o il marito? No. Dimmi, Michela, rispondi al maestro. No, il problema è che, allora, è bellissimo, no, l'amore, il romanticismo, no? Però dopo, quando si chiedono certe cose a letto, e un uomo un po' titubante nel fare certe cose, allora dopo subentra la noia. Però finché rimane l'amore... Insomma, ecco, in che cos'è titubante? Scusa, giusterebbe, chiederebbe... Ma lo racconto pronto ogni volta. Ma dillo a Max, dillo che non lo sa Max. In che cos'è titubante? Cioè, Michela, posso fare una domanda? Una domanda. Sì. Io sono molto esplicito, eh. Sì, devi essere. Tipo, lei ingoia? Ingoia? Ma, certamente è chiaro mio marito, Madonna, ti credo, ma anche se no, non però, era mio marito, però il problema è che non si fa mettere un dito dentro il sedere, mi sembra tuo marito, mi sembra non di mio, ma sì, ma non è solo quello, è un po' a me piace che sia un po' sporco il sesso, no? Invece a lui piace pulito, a lui piace, capito Max, capito? Qual è il problema? Cioè, a lui piace il sesso quasi, non dico tradizionale, ma insomma non è molto fantasioso, giusto Michela? Alla fine è questa la cosa, sì, o no? Sì, e dopo sembra quasi che sono io il problema, che sono esagerata. Poi ho parlato con il mio vicino di casa ieri su questa cosa e lui mi ha detto che io sono un po' complicata, ma sono un po' tutti pure così, sono americani. Pure vicino di casa. Sì. Max, quale sarebbe la soluzione, Max, per te? Allora, io come soluzione dico, ho sentito che dovrebbe venire qua in Italia, sì, a breve, giusto? Sì, a breve, sì, a breve. Il mio consiglio è quello di fare una cena assieme. Sì. Vengo pure io, guarda, cena a tre facciamo, cioè io te la morellato. Se vogliamo invitare anche Parenzo, facciamo no, la difficile, difficile. Grazie, no, grazie. Sono in questo momento però, mi trovo a Padova fino a domenica. Dalla settimana prossima sono bloccatissimo a Roma, bloccatissimo, non mi posso muovere proprio. Allora porto le mie amiche. Io voglio chiedere una cosa. Se la vedo, le amiche della come la vedi? No, vorrei assolutamente fare il motoscafo sulle sue tettone. Questa è la prima cosa che voglio fare. Come il motoscafo. Ma solo allora, fino a che rimango sposata è un po' difficile. Ora dammi del tempo per capire. Il motoscafo è una cosa goliardica. Sì, non è una cosa impegnativa. Glielo chiedo, magari lo mettiamo su Instagram. Facciamo un boomerang con le mie tette, ok? Ma non ho capito. Ma che il motoscafo che vuol dire, Max? Spiegalo un po'. Il motoscafo è quando praticamente affoghi la testa in mezzo alle tette. Affoghi la testa in mezzo alle tette. Sì. E poi metti le labbra praticamente sulla tetta e su, no? Che fa il rumore del motoscafo. Ah, quello è il motoscafo. Io lo sapevo. Com'è che fa Michela? Scusa, com'è che fa Michela? Com'è che fa? Motorboat. Guarda che è portata, Max. Guarda che è portata. Guarda che è portata. Se vieni anche tu, facciamo una tetta a testa. Ma perché l'ho fatto il motorboat sulle tette di una stripper rumena una volta? È stato divertente. Che cosa hai fatto? Avevo fatto il motorboat sulle tette di questa stripper rumena, ma erano delle bocce grandi e rifatte. Sì. Ed era più difficile perché il mio seno è naturale, quindi è un po' più molletto. Vibra di più. Sì. Sì, è un sogno. Poi ho visto i capezzoloni rosa, incredibile. Effettivamente dove li hai visti i capezzoli? Delle foto ci sarà qualche capezzolo nelle foto, cioè no, non ci sono capezzoli, è normale che girino delle foto di una signora, io non lo so dove vivete voi. Allora voglio capire da Max però una cosa, dopo il Covid da quando si può circolare, hai ripreso l'attività oppure no, Max? Allora, da quando si può circolare, diciamo che ho dovuto fidanzarmi parecchie volte. Ci sei fidanzato, cioè? Cioè, nel senso, ovviamente è lecito solo diciamo i ricongiungimenti tra congiunti, e quindi ho dovuto congiungermi più volte. No, quello all'inizio, adesso si può fare il cazzo che uno, cioè, adesso ognuno può fare il cazzo che vuole, cioè in questo momento. Vabbè, io comunque sì, nel senso, cioè, sono per il sesso libero, sono sempre stato, molto, molto in astinenza nel periodo insomma di chiusura, ma adesso diciamo che, cioè, io purtroppo non riesco a resistere, un mio limite, lo ammetto. Cioè, da quando è ripresa la circolazione, diciamo, interregionale, no? Interregionale. Fino a quel momento sei stato ligio. Da quando è ripresa la circolazione interregionale, come hai impostato la cosa? Hai cominciato questo famoso cazzo tour, pisello tour che volevi fare, allora, oppure no? Per adesso ho fatto un cazzo alle congiunte, a domicilio delle congiunte, sì. ma molto, molto, cioè nel senso velato, non ho ancora filmato niente. Ho tante ragazze pronte da scopare anche in video. Sto aspettando un attimo di capire com'è la. Io non ho capito se posso tornare a fare il mio lavoro o no ancora. Questo penso di sì. Cioè, assolutamente sì. Puoi tornare a fare il tuo lavoro. Se produci da solo, sì. Altrimenti, se produci per una casa di produzione, devono essere loro a decidere. Però a casa tua puoi tranquillamente farlo. Cioè, se hai una tua casa di produzione, come ce l'hai, un tuo team. Ma non è che lo fai a casa. Eh? io la mia casa di produzione. Certo. Ma lo puoi fare tranquillamente, se una persona ci sta, se una persona è disponibile, qual è, che cosa è che impedisce? Dimmi Michela, dimmi. Ma chi è che scrive i testi dei suoi film? Ma non c'è testo, amica mia. Non c'è, c'è poco testo e molto... No, molto... perché mi piacerebbe, io sono molto fantasiosa, mi piacerebbe scrivere qualcosina, magari puoi fare un film... Con la mia storia, no? Sì, una bella storia. Sì, ma quale ma lì è una cosa molto basica, capito? Se scopa, cioè questo è il punto fondamentale. Michela, non è Shakespeare, noi possiamo fare un film assieme, facciamo un film assieme, lo chiamiamo, non so, Soldato Guardone, non so, Con un generale che guarda con un generale che guarda voi due. Generale con il generale Pappalardo, con generale Voggete Pappalardo che guarda. Generale Pappalardo. Ma tu alla fine, scusate, alla fine Michela, tu lo faresti un film porno così in conclusione, cioè è una cosa che ti attirerebbe o no? No, l'avevo chiesto a mio marito di farlo con lui, però lui non voleva farlo. Ci penso io. Ma di farlo in che senso? Di farlo con lui? Cioè di andare, di mettervi voi due a fare un film porno? Sì, volevo fare proprio per l'esercito, tanto visto che siamo così famosi nell'esercito. Sì. Ho detto, io e mio marito, però mio marito ha detto che non può farlo. Beh, claro, perché non può farlo, lo caccerebbero due. Ma sta nelle special forces adesso, le special forces sta, e tu, chi, caro Adam, vorrei prima o poi fare un film porno con te, io lo puoi dire in diretta per fuori un uomo dello Special Forces americane? Dillo. Amore, dear Adam, I would love to make a porno movie with you and show to the world how much I love you. Capito, cioè Adam vuole fare un film porno con te, questa signora, ma accontentala, lascia l'esercito e accontentala. Ragazzi, dobbiamo finire questa meravigliosa conversazione. Ciao Max, a presto, grazie. Ciao. Michela, ti abbraccio, ciao. Un bacione, a presto. Ciao. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, con l'informazione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Davide Parenzo,